nessun problema. Ma era Sandro Trier. Sandro! Comunque 10 watt da questa radio, eh? Alto, 10 watt. Sì, l'ho messo a 10 watt, stavo guardando su internet, 10 watt questa radio. Quasi 20 in banda laterale. Sì, di quello non fa freddo, 20 in banda laterale. Allora, oltre i 20 ne dare. E 10 watt le ho messo, così lo aiuta un po'. 10 watt. 10 watt. Come fa non fa più? Non lo fa più. No, cosa gli hai fatto? Il telefono abbiamo eliminato. È un il coso della, come si chiama? Del PTT. L'ho smontato e pulito. Ma dentro la radio, perché lo faceva su qualsiasi radio lo faceva, Ma questo microfono? Ecco. Avanti, prego. Buonasera a tutta la rotella. Ciao Anto Falchetto, buonasera. Dimmi come va questo microfono di Giuseppe che l'ho riparato. Aspettina, tu non vuoi mai perso l'audio qua alla grande. Bene, va, no. Non intende più frusci e frusciti. No. Di lusso. Ciao Antonio, ben sentito anche a te. Perfetto, devo essere sceso a consegnare. Ah, positivo. E allora, già claro. Ehi, tutta la gira venendo il microfono, me l'ho tutto fatto a pezzi, proprio questo l'ho fatto a pezzi, davvero. Tutto riassemblato, risaldati tutti i fili, fatto il connettore nuovo, e lo sto provando adesso. Con la radio Giulia mi ha portato anche la radio e microfono, ci avvedi? Ah, il lusso, terra. Di lusso, scommetto che una casina con il microfono. No, ho solo riato tutta scoccire. Carità di Dio. Ho dovuto tutto rifare sotto. Saldare proprio tutto. Ho smontato anche i potenziometri. Li ho tutti puliti con la trierina e poi li ho lubrificati con quello spray che sei tu. E riassemblato piano piano. Adesso è nuovo. La radio gli ho cambiato tutte le viti. Ero tutta pulita dentro, fuori, tutto a posto. Ah, di lusso. Veramente di lusso. Me ne dai 2 minuti, già qua. Vai, Zianto, già sono in nove. Attenzione, Sandro Trier. Sandro. Ah, Sandro è parato. Boh, se non si è fermato da qualche parte, non lo so. Che macchina era? K di Rosmetro. Allora sicuramente se fermato da qualche parte, dai. Giacla. Luia. Interrogativo. C'è un dietro, un po' figlioccio con la rete, ma dovrebbe essere il tempo che il caldo che lo vedo un po' giù di morale. E chi? Tu dietro. E come mai? È caldo, anzi, oggi non viene caldo, già si sta bene. Tullio! Ma poca cosa, mi ha pesato. Vabbè, scusami. Il cane più basso del mondo, che allora, le zampe più basse del mondo, da 10 centimetri, le ho misurate l'altro giorno, ha giocato un metro di cura a terra. Sei un bassotto, poi fottelo se usci. Allora ti piace di questa radio? Ah, Giocca, di lusso, me la vendi, Giocca, me la vendi. A pagare già lo sai. E di Giuseppe, bella, un'unica in Washington base. Molto bella, ce l'ho tutta veramente lucidata. Ho messo tutte le viti nuove, le ho tutti una diversa dall'altra. Ma era importante sistemare il microfono, almeno lo usa, capito? Sì, no, è bellissimo, una bella radio adesso, eh. In fronte a ieri quando l'ho sentito, madonna, oh via. E vabbè, gioca capitato un po'. No, questi microfoni già li conosco, e altri magari no, ma questo già lo conosco. Avevo fatto le modifiche inizialmente, adesso le ho modificate anche a lui. Esce bene, esce bene. Se non esce bene da casa sua, vuol dire che c'è qualche problema lì, eh. Perché qua, guarda, non fa un difetto nella radio e nel microfono. Guarda, dottor, io sono del parere che lui ha problemi sull'antenna. Molto probabilmente c'è problemi sull'antenna. E può darsi che abbia anche qualche rientro, però anche il microfono lo deve tirare, perché c'è il cavo che è molto molto corto. Sicuramente l'hanno tagliato, non lo so, però è molto corto rispetto ad altri microfoni, è molto corto, capito? E gliel'ho tutto rifatto nuovo, il connettore, gli ho messo il termorestringente, quindi speriamo che non lo tiri, ma dovrebbe andare tutto bene, ho provato a tirarlo, non succede niente. Infatti ci vuole un po' di insomma, da parte sua un po' di delicatezza, diciamo, dai. E se il cavo è corto non è che puoi tirarti il cavo al bagno, diciamo, dai. Lui deve andare in base al passo suo dal piede. Si conferma. No, ma comunque adesso già va bene, dai. Oh, tutto positivo, io andiamo. Speriamoci, che già va bene. No, una bella radio, 220, bellissima, molto bella. È molto bella come radio. Poi è nuova, quindi non ci sono problemi. Anche il microfono è nuovo, solo che ha detto. C'erano delle cose che non mi quadravano. Sì, poi è trovato due a te, mi basta una scheggiatura subito. No, ah, ma mi ha giovito civili, cazzo, la valeniamo, ha giubilato i vidi nuovi, ce li ho nere tutte, le ho messe nuove, ma va a fare di più figura la manco. Soprattutto quello, la radio deve fare la sua figura. Ascolta, ti volevo dire a proposito di radio, Gianfra, tu ce l'hai vista la mia radio, sì? L'87. Positivo. Ma lo sai che si è spaccato la dove ci sono le monopoline, c'è quella gomma famosa, no? Che ricopre il castigo, si è spaccata in due. Cosa bisogna fare dietro? Ma quella interna o quella esterna? Esterna, quelle gomme esterne che ci sono quando tu giri le monopole, no? Ci sono le rivestimenti in plastica, diciamo, vai. Bisogna che lo vedo, tu bisogna che passi qua. Lo vediamo se c'è qualcosa che si può fare, perché adesso così non ce l'ho presente qual è. Ma quella della commutazione dei canali? No, dai, i tasti, no, nei tasti hai i tastini piccoli, diciamo, quella dove c'è i canali c'è la plastica rigata, tutti gli altri tastini lo stesso, i piccolini hanno la plastica rigata, no, con la plastichina, e mi si è spaccata in due parti addirittura. Ma ce l'hai sempre la plastica? Sì. E vediamo se si può mettere il termoretringente, si fa uguale, capito? Si fa uguale, non c'è problema. Ah, positivo. È una cazzata, me, se tu non vedi mi dirai, capito? E non te la rubata per il gas uscito. Va bene che la radio è un po' antiquariata, diciamo, però, caspita. Pronto? Registrato il becco. Pronto? Pronto, sogno. Chi è? Ciao, Falchè, buonasera. Sandro qui. Oh, Sandro Tigre? Si conferma al 100%. Ciao, Falchè. Ciao, Sandro, dopo la marea. Salutoni mille, dai, una pattacca sulle spalle. Ok, dai, quanto ha cambiato il tutto, ok. Va bene, Claudio, riprendita. Dove sì, ti ho chiamato poco fa, non mi ha risposto. Lo so, mi devi scusare, ma mi sono fermato e ho completato una questione qua, dai. Gappa. Capito, dai, Gianfra. Sto pensando, perché se quei rivestimenti di plastica sono vecchi, si tolgono tutti, bisogna però vedere la manopola com'è, se anche la manopola è rigata. è bella, se liscia non mi piace. Aspetta, ce l'ho qua a portata di mano, esce, vedete. Mi va di sia liscia a me, già liscia. Liscia? Liscia, liscia. Ascolta, il frontalino com'è, grigio o nero? Nero. Nero? E quindi le manopole vogliono grigie, se no sono brutte. E se no ci venissero tutte in nero, mi. Ci mettono in fila tutte. E abbiamo tutti niente, belle, capito? Belle, con i risalti delle posizioni, col puntino grigio o bianco, e la avremo nuova, mi. Si rompe le balle. No, allora, il discorso è che le manopole sono nere, tutte nere, però se io tolgo l'avvolgimento in plastica, che c'è quella plastica morbida, diciamo, che è andata via, che si è spaccata, sto notando che sono un po' schiarite, hai capito? Il colore della... cosa posso dire? Il colore dell'alluminio, diciamo, dai. È grigio alluminio. Bisogna vederla. Bisogna vederla, Anto. Se ne hai voglia, domani sera passi. La vediamo. Se si possono fare più belle, si fanno. E se no, si mette il termorestringente su quella lì e si rimette com'era. Capito? Positivo, no? Positivo è capo di rocero. Andrà bene, andrà bene. No, perché è tutto un frontale nero, monopole nere, è tutto unito, dai, tutto, diciamo, vestito di lutto. La vediamo, vediamo cosa si può fare, perché se c'è quei gommini bisogna rimetterli, bisogna inserirne qualche d'un altro, se no col termorestringente si mette dentro, poi a caldo col phon, capito? Riaderisce e diventa come era prima. Ah, è positivo. Positivo è il K di Rogero. Comunque complimenti per quella radio, ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a Dio Falché. Di Lucio siamo giù. Di Lucio KK. Ehi, ehi. E modale, modale, più sentito vai. Negativo, non l'ho più sentito. Niente di niente. Sandro, dove sei? Ehi, passato adesso qua a Ottava. Passato a Ottava, qua nel fosso. K di K. Io mi a 10 watt gliel'ho portata o Falché. Ne ho messo a 10 watt e il microfono è a metà. Già va bene così. Perché se lo aumento, guarda. Guarda cosa succede, va. A neve di radio, a fruscia. Messo, Maria, la bomba, Dio grado, la bomba. E te la sera tutto disintegrato, dentro io l'ho guido. Tutto disintegrato, il ciclo riabbasso com'era. Lo mettiamo così, me. No, a metà. A metà viene pure un po' di buchi. Ehi, già l'ho guido. Io vi saluto un attimino che sto scendendo a prendermi le sigarette. Ciao Sandro, buon rientro, buon tutto, e se non ci si riascolta più dopo, ritieniti super salutato. Già qua, dopo che sto andando a prendere le sigarette. Via. Ok, ciao Falché, tutte le prossime, dai. Avete, cosa va? Cosa c'hai di Sandro? I gattini? No, è un pippo. Leocrati. Ehi, davanti a delle varie, Sandro. Quei giochi sono, che tu non devi portare uno, Ehi, Claudio, mi devi scusare, ma il giorno aperto mi sono veramente dimenticato. Dai, già messo da parte, comunque, dai. Ehi, positivo, positivo. Ascolta una cosa, quella radio che ti hai portato, quella radio, quella cosa che ti hai portato via da qua, ce l'hai ancora? Ah, fai positivo? Non la dare, che forse serve a me, Capito? Va bene. E così ce la teniamo qua. perché molto probabilmente me ne danno un'altra che già, vabbè dai, già comunque già te lo dico verticale. Tu non la dare, anzi, quando sarai Sassari mettila in macchina e portala di nuovo qua, poi ti spiego cosa facciamo. Signori, posso? Io vi saluto, dai, a più dopo. Ciao Anto, a dopo, capito sa? Ok, ciao Falche, tutte le prossime. Guarda, ancora nel furgone, ce l'ho ancora appresso, guarda, no, neanche scaricata. Allora non la scaricare, capito? Non la scaricare. Se domani sali a Sassari, passa 10 minuti. Che sono in contatto con uno e già te lo spiego verticale, capito? E forse la mettiamo a posto. Ok, dai. Va bene, domani Gallo canta presto per me, domani, ma quasi pure rientrando, dai. Domani sono tutto Oscar Lima da parte mia, magari rientrando, dai, tra. E sto rientrando, sali da Scala di Ciocca un attimino e ti fermi, 10 minuti, capito? Passa, ma non stai rientrando da Olbia. Sali un attimino alla Scala di Ciocca, 5 minuti e poi te ne vai via l'Italia. Non ti crea problemi. Va bene, ok Claudio, dai che sono quasi arrivato qua a Domo, dai, ce la risentiamo alle prossime. Ehi a Sandri, non ti dimenticare, capito? Lascialo lì in macchina e quando stai rientrando passi, già sono a casa, a qualsiasi ora, non ti creare problemi. Dai, buon fine serata, buon tutto e ci riascoltiamo semmai più tardi, ciao. Benissimo, guarda, perlomeno c'è un bel 20. cielo ci sta bene, perché lì caldo c'è. Vabbè, io non è sceso poco oggi dal mio camicolo, quindi. No, questo è maestrale, si è venuto forte, ci vuole la rientiera, il mare è incazzato. Oh, incazzato, ah, sì, sì. Allora manca pescare, ci può andare. Se non c'è il maestrale è un casino, almeno pulisce bene e rinfresca. Sì, hai proprio ragione. Ma è Luca là? Luca chi? Luca Del Monte? Ehi, poco sta entrando. Si è invece fidanzato e non sta entrando più in radio. No, l'ho visto 2 anni fa, l'anno scorso, alla festa di Porto Torres. Senza vederlo, la verità, sono da tanto senza vederlo. Prima ci vedevamo spesso perché eravamo vicini, adesso io sono veramente su in montagna e quindi ci vediamo poco, capito? Ho capito, ho visto. Va bene, dai Alessia, che mi allontano un po' dalla radio, che sono tutta la gira, mi battagliano anche il microfono e tutta la sera seduto qua, me ne vado un po' a vedere la TV, dai, a fare 2 chiacchiere con la moglie. Già ci sentiamo. Saluta Babbo, un abbraccio grande, fatti sentire, capito? Grazie, grazie, è stata una parte sua. Ci sentiamo al prossimo, ma nazionale anche a te, ciao ciao. Ciao Ale, ciao. Avanti, chi è? Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Beh, tutto bene? Ho sentito la tua radio scrivere come una bestia. Non ho capito. Ho sentito la tua radio scrivere come una bestia. A quale però? A quale? Cazzo, anche in radio online, perché ti sei arrecato. Ah, quella... No. Chi sei? Antonio, Bombolo. E allora chi sono? Dopo Giglio. E ben tu? E beh, a comparare. Niente, stamattina mi sono trovato con Claudio e gli ho dato quella radio lì, adesso me la sistema lui e vediamo un po' come esce, capito? Eia, praticamente che acconfa la radio, compreso hai. Eia, sta pompando? Sta ripompando, ma pompa però. Giuseppe. Eia, ciao Cla. Ciao, buonasera, come mi ascolti? Bene, bene, 9.30 quasi, eh. Non interessa a me il segnale, a me interessa la radio, il microfono, come lo senti? Buono, bello, bello, pulito. Provalo a dare mano a Canimutti. Ti ho fatto tutte le connessioni nuove, staccato completamente lo spinotto e fatto tutto col termorestringente. Dentro ho fatto il lavoro che c'era da fare, tutto pulito, tolto quell'altro isolante, la prossima volta mettetemelo in culo, capito? E ce l'ho a metà, ce l'ho, mi guarda, così a manetta, guarda, a ver se fischia. Fischi senti per caso, ho solo radio bella. No, no, va bene, ultima per la truppa, mi sta arrivando la bomboletta, hai capito? Va bene. E lo sai chi ne mette il cazzo col nastro, no? Tu lo sai, te l'ho spiegato stamattina che c'è l'invenzione mette sempre quel nastro. Ma non c'entra niente mettere il nastro, se c'è necessità un altro si mette. Ma non è che si saldano i fili e poi si mette il nastro così. O non si saldano e si mette il nastro, io non so chi l'ha fatto, non mi interessa neanche saperlo. Sta fatto che io l'ho tutto rifatto a nuovo, tutto aperto, pulito. Puliti i potenziometri, non gracchia, il tono lascialo chiuso, il tono deve rimanere chiuso in questo baracchino, altrimenti ti porta via la radio, a zero il tono. adesso non fischia più, capito? E ho fatto tutte le connessioni nuove. E questo cavo che c'è non è il suo, questo cavo è corto. Perché è così corto? Non lo so, io quello lì gliel'aveva cambiato Antonello, Pomponio, perché quello di prima era tutto quanto messo male. Vai, minchione. Cazzo, messo male, che se lo volevo il microfono, sono messo male. Questo è corto il cavo, capito? È corto. Tu non lo devi tirare il microfono però, ma te lo tiri il microfono per quando ce l'hai a casa. Dove lo tieni questo baracchino? Sopra il mobile. E beh, sopra il mobile. E il microfono lo tiri, no? Ci arrivi? Sì, ci arrivo. Come metto la stazione fissa, il baracchino rimane a metà e a metà gli metto l'altro il microfono, hai capito, Cla? Il microfono non lo devi mettere sopra la radio però, te lo metti a fianco, capito? Perché sopra la radio i microfoni non si mettono. No, io ce l'ho sempre appoggiato qua, hai capito? Appoggiato qua. Vabbè, sta facendo bene quindi. Cappa, alla grande. Rumori non ne senti, no? No, niente, negativo. Poi voglio sapere chi è che ha messo quelle viti anziché da ferro, da legno. Ti ho messo le viti nuove, sue, originali, rotonde, piccoline, nere, sopra la radio. Che cazzo le ha messe quelle viti? Non lo so, io quello lì quando è, quelle viti lì, può darsi che... Sì. Se a me c'è Marco Bucaccione. Poi no, sopra, sto parlando del coperchio di sopra, l'ho tutta pulita la radio, ho messo le viti nuove che facevano schifo, quelle sono viti da legno a testa piatta, ci vogliono quelle tonde sue originali. E cappa, va bene, dai. Comunque te le ho messe, la radio è tutta a posto, il microfono è a posto e non ci stanno problemi, capito? Ecco, va bene, dai. Domani tienilo per adesso lì, Cla, e quando ci sentiamo, al limite domenica, ci vediamo e me lo porto via. Eia, non c'è nessun problema, capito? Guarda che ti ho portato i watt a 10 watt, quindi non attaccare lineari, non attaccare niente. Sta dando 10 watt questa radio e il clarifer poi ti spiego io come tenerlo, lo devi tenere al centro, non spostato né a destra né a sinistra, al centro. Vabbè, poi quando te lo do domani te lo faccio vedere. Bene, dai, Cla, io domani mattina sono là al lavoro, se non è che tu all'ora di mezzogiorno e mezzo sei a casa, passo e me lo ritiro. Va bene. E vabbè, dai, Cla, ok. Oh, yeah. E adesso stasera mina, sto tornando mezz'ora fa, ero giù a Coso, a Canica, dentro questo appartamento, stavamo stuccando, mettendo un po', facendo una cucina, smantellando e tutto quanto, hai capito? Va bene, bisogna lavorare. Avanti, gufo, buonasera. No, l'ho acceso, tanto lo sto spendendo che sto uscendo, tanto per farlo scaldare un po'. Chi scrive a poscia legna si crede a fra Michella e Pinocchio. E allora? Ciao, buon proseguimento, dai, che io chiedo che sto uscendo, ciao. Ciao, gufo, ciao. Ciao, gufetto, buonasera. Dopo una maria di tempo, buonasera, mister Gufo, beh. Sono ricambiati, ma sto chiedendo che devo uscire, là. Alla prossima, ciao. Tu la sei, prendi Pinocchio, pure ne dividi a Pinocchio, i civiti. E capa, vabbè, ascoltami una cosa, grazie. Ma di Gio Maria nuda sai? No, non l'ho sentito, non l'ho neanche visto. Sì, perché hai ricoverato l'ospedale, non l'hai preso. quando l'hanno recuperato? Non sappiamo nulla. E è recuperato già, quanto è? Una settimana, tra? Una settimana buona e... è caduto dall'albero, capito? C'ha tre cose le fratturate, gufo. Questo di là, la dici non passava prima dall'albero, una cena, e che ospedale? Al civile. Civile, credo, credo sia ricoverato lì, però non so che piano è, bisogna chiedere alla figlia, io non l'ho sentita la figlia. Tu il numero della figlia, di loro c'hai, no? No, già ce l'ho il numero, è mia, dopo lo chiamo, già c'ho anche il suo. Prova a chiamarla, vedi cosa ti dice, e mi fai sapere qualcosa, vedi come sta, grazie. Ehi, io adesso però devo uscire, già lo faccio sentire la limite domani, va bene, ciao. Ciao, grazie, buon tutto là, fatela buona, che la risentiamo alle prossime, avanti, grazie. Gappa di positivo, va bene, ok, ma tu dove sei adesso, Giuseppe? A casa. Ah, per non farti salire, se no te l'avresti preso adesso, vabbè, come vuoi, c'è problema. Vabbè, non c'è problema, dai, me lo ritiro domani mattina dopo che esco dal lavoro e passo a casa tua, lì o ci troviamo al quadrato domani dopo mezzogiorno e me lo prendo. Va bene, va bene. Comunque lo senti come sta funzionando? Riesci a vedere se riesci a farlo funzionare così, mi capito? Perché se non funziona così lì, vuol dire che c'è qualche problema dell'antenna, Giuseppe. Perché adesso il microfono è tutto a posto, la radio è tutto a posto. Spero che non ci siano altri problemi, credo, ma non penso comunque, non penso, perché esci benissimo. Capito? Allora, di una cosa, spiegami una cosa. Ma se io metto gli altri baracchini, no? Che sia quello là, quello che è il tuo vito, il Galas, perché non fischiano e con quello lì fischiava? Questo qua fischiava perché l'ha fatto a culo di scimmia. Tu lo senti fischiare qua, se non fischia qua non deve fischiare neanche a casa tua. Beh, giustamente no, domani quando lo porto qua nuovamente e l'attacco, se vediamo un po' dopo, poi si vedrà come si sente. Vabbè, tu l'importante è che i toni lasci stare tutti chiusi perché non servono a niente, con questa radio toni non ce ne voglio, guarda, adesso guarda, io c'ho i toni, se apro, guarda. Allora vedi, la radio quanto è brutta, li devi tenere chiusi i toni così. Cappa, va bene. Ma poi domani te lo faccio vedere, le posizioni già te le ho segnate, ti ho segnato tutto. Ed è una bellissima radio, è nuova, il microfono te l'ho tutto pulito, sistemato, capito? Ed è nuovo, nuovo anche il microfono. Non gli attaccare niente, adesivi e controadesivi. No, adesivi. E io qua, nei baracchini, nelle cose, non le ho mai attaccato niente, capito? Mai. Qualsiasi autoradio o quello sotto là, non le ho mai attaccato niente. E da che cosa? A far vedere che cazzo c'ho la radio da pastore, ma non credo proprio. Perché qua vicino alla capsula, nel corso della capsula c'era una bandierina dell'Italia, nella giugata, l'ho tutto pulito con l'alcol, ti ho rifatto tutte le cromature nere, tutto pulito, bello ordinato, adesso va bene. E così usi questo, Giuseppe, c'ha 10 watt, arrivi in capo al mondo, guarda. Io tutta la sera che parlo e nessuno mi ha detto niente, c'era anche Sandro a Porto Torres in macchina, mi sentiva benissimo e quindi non ci sono problemi. E vabbè, dai, non c'è problema, lo proverò domani quando lo ritiro, dai. Ok, dai. Chi c'era? Antonio Bombolo? Bombolo, ci sei? E magari sta consegnando, dai. Sta consegnando. E quindi dove vedi di là, da quello che mi hai detto stamattina? Campa, e a Canica ero. Non avete finito ancora? No, io ancora... ce n'è ancora da fare, c'è tutta quanta ancora da imbiaccare, tutta due stanze ancora, però non lo so se mi chiama. pure far venire il figlio, ho capito. KK, va bene, non ci stanno problemi. L'importante si faccia qualcosa. Vabbè, grazie. Giusto per azzurrata, a me non è preso, giusto per avere qualche ciullino in tasca, ma no, non ti credi che mi abbia dato molto stasera, eh? Vabbè Giuseppe, su vane, l'importante è che vada bene, capito? Sì, c'ero 3 ore e mezzo, mi, dalle tre alle 6:30, mi, non è che c'ero molto, mi ha dato 20 euro, capito? Ma non se ne fanno la vergogna, cazzo, ma non se ne fanno la vergogna. Ma almeno, cazzo, boh, di ora ti devo dare, cazzo. Ma non se ne fanno la vergogna, cazzo. Vabbè, su. Cosa vuoi fare, cazzo? E acciappo tutti io, cazzo, i guanti, perché io questi li chiamo guanti, capito? Guanti della... Però, cosa mi dirai? Meglio questi che nulla, però a meno ce li assicuri, hai capito? Vabbè, cazzo, ma non si può stare dalle 3 alle 7, cazzo, per 20 euro, ma come si fa, cazzo? Sono 4 ore, mi, hai capito? Sono 4 ore, cazzo, ma li vuoi dare 40 euro, cazzo? È una mezza giornata, ma come si fa? È una mezza giornata, ma li vuoi dare 40 euro, cazzo? Cosa faccio di cazzo? Ma dato quelli mi sono preso quelli, cos'è? E io devo, cosa devo fare? Mi devo passare, dirgli no, non ci vengo più, Cazzo mi capita un altro lavoro con lui, più grosso, e mi darà qualcosa, perché me li ha sempre dati. Quando ho fatto ore in più me li ha sempre pagate, non è quello, però la sera abbiamo fatto quella roba lì, della cucina, a fare questa cosa, però non aveva altro. Ehi, va bene. Chi è che vuole entrare? Gianni, tu sì? Gianni? C'era qualcuno che ha chiamato? Attenzione Gianni! C'è gente a parlare sotto. Vabbè Giuseppe, comunque... È una vergogna, capito? È una vergogna, va bene. Allora te lo preparo adesso, te lo metto dentro la sacca, la tua sacca, il microfono, in un'altra busta, in modo che non si graffi e che sbatta. E poi domani te lo do. Adesso lo stacco, è finito, comunque va bene, dai. È uscito un capolavoro. Ottimo per la truppa. Ma il contratto, Claudio, l'hai controllato lo Smith? No, lo Smith non ho controllato niente, è vero che i segnali sono quasi tutti uguali. Come mai è così questo Smith? Perché da quando l'ho preso con lo Smith più di 7-8 non sale. Cazzo, mi sembra una cosa strana, qua mi faceva così, capito? 7-8 e non sale. E vabbè, qua non sale più di 9 perché io ho un'antenna diversa. Ma boh, non lo so Giuseppe. Non lo saccio. Non lo so che cosa c'ha. Se c'è qualcosa lo smitter, ma non credo perché... Io gli ho tarato i batteri a posto. Se no è così, è mezzogiorno. Vabbè, già va bene, già. Già lo lasciamo così per adesso, poi... Più là si vedrà là, quando c'è la possibilità, quando ci sarà la possibilità, sempre un domani, si farà una stazione come Dio comanda, ma più là però, non adesso. Giuseppe, ma non hai più gana, semmai lo posso controllare domani mattina, lo smetter se c'è qualche trimerino che si può tirare su, non lo so. Vabbè, non ti preoccupare, lascia tutto così là, non ho fatto i dini, no, non mi ha fatto nulla. Comunque, l'importanza è che la parecchio sta uscendo bene, non sta facendo nuovamente quel disturbo, se no, e allora il problema è qua dell'antenna. E se fischia qua vuol dire che c'è qualche cosa che non va bene. No Giuseppe, fischiava perché era messo male il microfono, era messo male, c'erano i potenziometri tutti inchiodati, tutto messo male, capito? sistemato, mi ha messo dentro a posto, fuori a posto, ho fatto il connettore nuovo, che era tutto un astratto a nastro isolante, l'ho messo il termoretringente, te l'ho detto, gli ho risaldato tutti bene i fili, e funziona bene qua, non mi ha fatto un difetto. Inizialmente era tutto canto molto male, adesso è a posto, sto uscendo bene, ce l'ho tutta la sera attaccato, e nessuno mi ha detto niente, va bene, adesso va bene. Domani lo provi lì, dopodiché interveniamo sull'antenna, facciamo qualcosa, vediamo, voglio vedere il capo, voglio vedere il PL, voglio vedere tutto l'impianto lì, perché qua la radio è a posto, sia la radio che il microfono, già la senti? Sì, sì, non c'è problema, no, no. No, il capo qua, te l'ho detto, il capo è a posto, è nuovo perché io te l'ho detto che mi avevano regalato quei 20 metri, dunque li ho utilizzati, quei 20 metri li ho utilizzati, dunque li ho fatto passare il capo, prima era sopra, poi da sopra gliel'ho tolto e gliel'ho fatto passare giù. Boh. Nulla, non le ho fatto altro, poi l'antenna è piazzata dove è piazzata, dove si poteva piazzare perché l'unico posto è lì adesso, poi un domani quando avrò la possibilità di mettere un'altra antenna come Dio comanda, tipo la Mantova 1 oppure la Mantova 5, la piazzerò sul tetto. Cappa di oggettivo, va bene. Guarda, funziona anche bene il PTT alla grande, l'ho tutto pulito, vedi, non fa neanche più quel rumore, adesso è bloccato con lock, funziona bene qua Giuseppe, il microfono è a posto, l'ho tutto rimesso a posto, fatto come Dio comanda, il connettore è bello, adesso non si vede nato, non si vede niente, è bello stretto, con la sua ghiera, va bene, quindi se sta funzionando qua bene deve funzionare anche lì. Dopodiché vuol dire si farà un controllo generale, porto il rosmetro, quello con l'accordatore, quello grande dell'MFG e vediamo cosa c'è, altro non ti posso dire. Per il momento qua è tutto a posto, la radio è perfetta, e, te l'ho detto, ho messo tutte le viti nuove, il microfono è a posto, è tutto, adesso dopo te lo stacco, lo metto dentro la sacchettina che mi hai portato e domani mattina ci vediamo e te lo prendi, capito? Ehi, capo, vabbè, non c'è problema, dai. Ok, dai, che vado, diciamo, che ore sono? Le 7, le 8.25, no, non vado neanche a fare merenda perché sennò non c'è stanotte. Ma io non ho l'ora di fare merenda adesso, a me adesso fa le 5. Adesso io ho già di cena, fra un po' 8.30, 9-20, ceniamo anche noi. E dopo, non lo so, sono stanco stasera. Da una mano, tutto una mano da Giovattomi, Giuseppe, tutto una mano da Giovattomi. Allora poi non ti penso. Già lo sai, già lo sai, non c'è problema. Oi, per carità. E vabbè. È andata, vabbè, voleva fatto quel lavoro perché da quando me l'hanno dato non gli ho mai fatto niente, hai capito? Te l'ho detto Giuseppe, te l'ho promesso e te l'ho fatto, io quando dico le cose le faccio, non sono di quelli che si tira indietro, capito? Fosse stato un altro, avrete, aspetta, ma tu stai modulando con quel cazzo di baracchino lì, c'è una bellissima radio, una bella ricezione. È bella questa radio, è veramente molto bella, mi piace, è veramente molto bella. Quindi adesso c'hai tutto a posto, ti usi questa base, col tuo microfono da tavolo, almeno spinge bene, c'hai 10 watt e sei a posto Giuseppe. Io spero che non ci siano problemi lì, di qualche rientro, qualcosa, perché qua sta funzionando veramente, ce l'ho tutta la sera attaccata. E vabbè, non c'è problema, dai, ok, tra. Vabbè dai, al limite ci sentiamo dopo, dai, se dopo cena, se attacchi. Io già sono qua Giuseppe, non devo andare da nessuna parte. Adesso mi rilascio un pochino, te la stacco, è tutta bella pulita, te la metto dentro la busta e poi domani mattina ci vediamo, ci prendiamo un caffè come stamattina e te la do, capito? E vabbè, dopo le 11:30 perché io sbaglio l'ora lì, alle 11:30 poi vengo direttamente lì dove ci siamo incontrati stamattina, al bar di là, è capito, no? E ci troviamo lì intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e qualcosa. Io, ma non ti faccio neanche salire domani, intanto domani mattina scendo da Walter giù in via D'Annunzio, lì te l'ho detto, quindi ci vediamo direttamente giù in via Pascoli, capito? Non ti faccio neanche salire, ci vediamo direttamente giù, te lo porto giù, ci prendiamo una cosa lì da in via Pascoli e così sei vicino a casa, tranquillo e sereno, capito? Cioè ti telefono io domani mattina, così mi sistemo anche la macchina che devono fare dei lavori e sono giù nella bassa valle domani, così ne approfitto a passare in garage e a dare una sistemata anche. Ah, capo, vabbè. Vabbè, dai, io aspetto la tua telefonata, poi ci vediamo direttamente dall'appuntamento lì da cosa, da rifornitore, dai, come cazzo si chiama? Fargo, no, non Fargo, l'altro. Ah, Roby, ci vediamo lì, io sono di fronte a te, capito? Sono di fronte a te, ci prendiamo il caffè lì. Ah, da Roby, dai, vabbè. Non ti preoccupare, tu lavora sereno, io verso le 11:30 ti chiamo e mi dici come sei messo, capito? Capo, vabbè, non c'è problema. Vai, ci sentiamo dopo, ok? Via, ciao, per adesso. Ciao, Peppiccia. Attenzione, canale 10. Attenzione, canale 10. Avanti. Sto provando. Oh, lo sto provando. La camionetta è il container che sto facendo delle connessioni. Bene, va. Bene, avanti. Guarda, a vedere. Bene, va. Tutto a posto. Sì, sembra che stia uscendo. Faccio con l'altra radio, che si scavalca la terra non è l'antenna, perché se no magari se l'antenna la arriva a caricare da sola magari gli fa lo stesso rispetto. Ce lo proviamo oggi, domani lo prova, se l'antenna un lato ne rilano con tutto in terra la rifaccio tutta nuova, perché è impossibile, capito? È impossibile. Adesso il microfono è a posto, l'ho tutto rifatto, anche le connessioni, lo spinotto, tutto il coso della batteria, tutto quanto attaccato, capito? Tutto rifatto nuovo. E la radio gli ho messo tutte le viti nuove, che erano tutte una diversa dall'altra, e adesso c'è la bella ordinata. Adesso vediamo, se non è l'antenna la radio funziona bene, perché qua tutta la sera non ho fatto un difetto. Fortuna comunque. c'è sempre la sfortuna che sono così, e la speranza è che si metta bene a posto, perché altrimenti io stavo sempre arrampicato a destra, a sinistra, mi pare che ho finito, mi porto la scrivania e sarà veramente una tortura per me. Ok, a dopo. Sentiamo dopo, anche se ce l'hanno. a dopo, anche io sto andando a mangiare una cosa. Ecco, come ti sembra la radio con questo microfono? Questo è il Galaxy col microfono normale. Bella, è sempre bella. Ma è amplificato ovviamente, no? Non più di acciaio. Bella è, Fabio, molto forte. Con un microfono normale, dai, ci ho fatto, perché ci mancava, gli ho fatto il microfono normale. Vabbè, ci vediamo dopo, dai, ci sentiamo dopo. Ciao Gianluca, ci sentiamo dopo. Ciao Pipuzzo, non prendo la cena tutte e due. C'è anche un tedesco, Fabri, così è. Sì, l'eco della radio questo, e quindi forse è quello lì che l'amplifica anche un po', dai. Ok, va bene. Chi è stato? Chi è? Avanti. Sono Gianni doppio Ru. Come? E beh già. Vabbè, chi sei? Berto. Chi sei? Vado. Fermo. Beh già. Va bene, va. Seriamo, non è di gente attenditi e vedetti. Vai, sentirmi pure troppo. Sto provando il 847. Come va di radio? Insomma, così è accettabile. Bene, allora, beh, sarà buono perché siamo vicini. Alla gara. Sì, va bene, va bene. E allora, e te mi conto? Nulla, e qua sempre attivi siete, sì. Sì, sempre attivi. Sempre attivi. Diciamo che ci sono dei momenti di buca, magari dovuti a qualche screzio, qualche cosa, poi ci ritorno, va. Ci ritorno ogni tanto. Come mai non c'è Claudio? È andato a mangiare. Stavo parlando sino a pochi minuti fa e mi ha detto che andava a mangiare e poi riapriva. Rientrava. Perché mangia anche lui, alle fondo scala qua, parte tua, e questa fissiamo. Arrivi bene. Poi siamo un tiro di schioppo. Poi vabbè, questo che sempre il Galaxy Saturneco, mitico per me, sempre, l'ho sempre amato come apparito. Buonasera, buonasera. Oh, buonasera anche a te, lei che apparecchio stai usando? Un Galaxy Saturneco. Secondo me, guarda, io ne ho molti, la media, secondo me è il miglior baracchino che abbiano mai fatto. Sia per bellezza, perché è pratico ed è il più completo. Seguire c'è l'MS200, la Quinto 200 canali e tutti gli altri. Il Galaxy, cos'era? Quello mio? No, questo qui non è quello. Quello che te lo dicevo io, che te lo vedo tanto il Galaxy. Tu c'hai il mio, quello con le manopole dorate. C'è anche quello mio, 5 Galaxy. Cosa mi fai? Nulla. Ho uno in Slovacchia, uno qua a Sassari, pare che ne ho, no, quattro forse, ne ho colorato e forse ne ho altri due, 5-6 altri due ce li dovrei avere così, però ce n'è uno che il volume non regola bene, cioè rimane sempre troppo alto, non, al minimo sempre, non l'ho provato, bello, poi come baracchino è molto bello, Roger Beep e tutte le cose che possono scrivere in 27. Avanti chi ha buttato, buonasera. Buonasera, ciao Sale, poi l'altro Facebook, ma sto passando, mi è sembrato fatto, confermo. Ma Giovanni, Gianni è. Io non sento di radio, ripeto Gianni. Avanti. Allora ci siamo io, Walter e tu. Buonasera. Ciao Gianni, almeno sento le migrazioni, avanti nuovamente Gianni, per te grazie. Ciao Luca, ciao, ben sentito, vai, anche a te. Compagnia di Walter, di Mascherato e moi. Si è aspettato che mi portino una pizza ancora, perché mia moglie è andata a prenderla lì con un'amica. E ancora non si vede. Vabbè, vado a prendere il microfono che ti faccio sentire con il microfono normale come esce questo apparecchio. E poi vi vado. Ma chi è che è entrato in poche parole? Luca di Porto Torre. Ciao Gianluca, buonasera. Com'è il mio segnale lì a Porto Torre? Sto usando un apparecchio, un baracchino della Yaesu, l'FT847. Il segnale c'è il 920, ciao Walter. La radio è un po' passiva, devo dire che ho ascoltato un po' passivo di radio. Forse sei troppo distante dall'elicottero? Oh, no, no, no, la voce è migliorata. Io sì, allora, io ho messo il volume, mentre stava parlando Gianni, ho messo una posizione. Adesso purtroppo per sentire te ho dovuto aumentare. Aspetta, stavo leggendo un messaggio, cosa hai detto? 2920 arrivi comunque qua. Sì, sì, non è che ci sono stesso segnale, però è un po' bassino di radio, sicuramente sarà per il microfono normale, diciamo, vai. Ho capito. Allora, basta la modulazione, in poche parole, vediamo un po' se c'è qualche cosa, sta parecchio. Non lo uso mai, va bene, FM, questo lo uso in SSB, se non si va mai nessuno, va bene, in AM. Compressore, vediamo dove è. Eccolo qua. Non funziona in AM, in AM non va, non va. Però lo uso in SSB, non lo uso meglio. Aspetta che c'era qualcuno sotto, sicuramente un attimino che vuole entrare. Ecco, non ti funziona in AM, e invece in FM? No, il compressore non va in AM, guarda in SSB. Cappa di Reggio, chi c'è sotto avanti? Gianluca! Dimmi già! Questo è un microfono normale, adesso ti attacco l'ecco, ti faccio sentire con l'ecco, guarda. Questo è l'ecco dell'apparecchio. Cappa! Va benissimo già, tutto bene. Gianni. Normale, che ne ho dato a te. Il microfono di Luce. Va molto bene. Così è con l'ecco, così è senza, così è microfono normale. Si sente bene lo stesso. Ecco. Mi frate il brecchio, la guglia già. Benissimo. E voi perché sento basso di radio? Io sono un apparato che non è fatto per la M. In effetti sicuramente va meglio, però. Ciao Fabrizio, da questa parte. Ciao Walter, ciao Gianni, ciao Porto Torres. Ciao Fabri, va bene. Avanti Walter. Ciao Fabrizio, arrivi bene anche tu, 9:30 qui a Sassari. Allora anche io mi sto usando adesso un Galaxy Chatur col microfono normale. Vabbè. No, lo volevo provare perché qui gli lascerò questo microfono che avevo normale, che glielo ho invertito i cavettini e lo sto provando. Questo è il microfono normale, proprio il Galaxy Chatur con il microfono normale. È l'originale? No, non è l'originale, è un Lafayette questo. Normale. Walter, che differenza trovi tra questo Galaxy e quello che sta usando Gianni? Non riesco a farla perché Gianni anche attenuato mi arriva a fondo scala, cioè siamo che centinaia di metri di distanza, le antenne si vedono, dunque mi arriva 960 attenuato. E quando è così forte c'è una ovviamente una distorsione, una modulazione perché c'è la saturazione del ricevitore. Però diciamo che più o meno sono le stesse cose. E bei baracchini, che ovviamente usando apparecchi decametrici a SF li lascio un po' da parte. Però ce l'ho in Galaxy un po' dappertutto, una bella radio. E invece questo qui è col microfono su amplificato, un microfono amplificato. Il microfono gira molto bene, va molto forte e molto amplificato. Che microfono è abbinato? È un 35 però non ho fatto la modifica sul modulatore. Sul modulatore dell'apparato? Sì, del Galaxy. Si sente, spinge molto. La frequenza, cioè per fare 10 va bene, così per fare 4 chiacchiere un po' esaltata, va molto bene, pure nel MP5, anche il P9. Anche io ho l'MP5 e l'MP9, però questo è senza eco, c'è i tuoni, mentre l'altro c'è l'eco. No, l'MP9 sai che c'ho in scatola, non ho mai neanche aperto, non so neanche come ha fatto, ma va molto bene. Si è abbinato un Turner P3 però forse di più al Galaxy. Su questi due c'ho io da tavolo, qui c'ho altri microfoni, però sono due, solo che ne tratti un bel. A voi c'è qualche dato per configurare il parametrico dell'FT950? No, No, non ce l'ho. Qua su internet è già elettronico. Però non ho parlato che non ho neanche. Com'è il mio segnale di te, che lo smettere è bello ampio del diavolo? Allora, qui sei 9, vieni avanti. 1, 2, 7. Ah, qui sei 9,25, aspetta il controllo, con l'apparecchio avevo un centro del cambio che era poco riallineato, quindi quella è perfetta, aspetta. Non ho più sentito Roberto Quadrato, vabbè che entro raramente, tu mi dici se tratti di te. Ok, sei 9,22, qualcosa del genere. E tu sei 9,40 in questo momento, sto usando un vecchio Iegio 8,4,20, padre banda 8,4,7. Un bel apparato, è uno dei pochi che si può modificare per i 70 mega. Ho capito, ho capito. Sì, no, 9,25 volte. Ascolta, questa radio come ti sembra? Normale, 5 normale. L'altra spingeva di più, vero? Molto di più. Ma sono buone le due, preferisco questa. L'altra è molto bella lo stesso, molto bella. Il Galaxy, il segnale mi sembra uguale, provo Galaxy. Allora questa è il Galaxy, teniamo quel senso, questo è il Galaxy. Il segnale è uguale. Quanti watt dà il Galaxy? Questo dovrebbe dare, adesso sono intorno ai 10, però aspettate, intorno ai 10 watt, perché c'è un po' di stazionale in antenna, perché dovrei salire su a cambiare un po' di acqua del pH all'entrata. E quanto ne può dare al massimo? Per le 15 di picco. Ma tutti uguali sono, perché se devo, molti dicono danno 30 watt, è possibile? Se gli metti meno troppo, però secondo me non esasperi troppo, 10 e se ne 15 modulati secondo me è l'ideale, se no poi dopo è troppo esasperato, dai, o forse anche di più un po', dopo dovrebbe, però l'avevo provato, quando l'avevo un po' sollevato, ma se esageri devi magari pilotarci, devi però rischi, secondo me il rischio non vale la pena, tanto ti serve l'usi, perché se gli attacchi un linierino, ti serve che non sia troppo spinto, se no inizi a fare casino. Ma questo sta bene, perfetto, diciamo, almeno io ti dicevo così, con il filtro largo, modulazione molto chiara, no? Benissimo. Avanti Gianni. Voilà, vi lascio che sono arrivati lì più qua e dopo ci sentiamo, già rientro. Ciao Walter, mi ha fatto piacere sentirti, ciao gli altri amici. Io faccio quello di causa carica qui, tanto mangiare una pizza non ci metto molto, ma la sbrano. E lui, la famiglia di Benz, il signor Bertone. Ciao già, appetito. Ciao Gianni, buona pizzata, ciao Gianni. Ciao Gianni, hanno ragione, ti conoscono bene. Ma Roberto Quadrato sta più entrando in frequenza? No, non sta più entrando, guarda, non sono andato a trovarlo perché il 29 ci sono gli esami e quindi pensavo di scendere, invece non scende questa volta. Mi dispiace, è un ragazzo in gamba anche lui, porco mondo. Oh, yeah. Per minchioni che sono a Cagliari, guarda, andrei a fare in culo tutti quanti. Nelle altre sezioni a Genova, la Spezia, a Bari, sono quasi sempre tutti. Insomma, anche perché io lo trovo giusto, un po' di selezione la devi fare, ma poi anche giusto quando eri sul boom è uno che seleziona, è un po' quando vedi bene, no? Cioè ti selezioni i clienti, vai dove vanno, tutti vanno bene, prendi tutto quello che ti capita, quindi voglio dire, non è che devi fare proprio così, però non stare, cioè se uno ha voglia di entrare, che è una cosa che sta un po' morendo, perché con me con l'evento del PC e tutto questo, cioè vedi un po' che non che un asinello, ma è gli otto una mano, invece ero proprio preparato, io l'ultima sezione su 39, quindi tutti ci hanno bruciato, nemmeno uno è passato volte, perché a me ho fatto il computer per la tecnica, si è andato molto bene, ho fatto il punteggio, poi è sbagliato qualche normativa, praticamente ho sbagliato questi favori quattro di questi e ho tornato indietro. Guarda, mi dispiace perché io farei delle valutazioni diverse, l'elettronica sì, d'accordo, ma ormai questa cosa sta andando a crescere male, il mondo cambia, devi più rapporti, non i rapporti, la persona, la moralità, il comportamento, l'etica, capito? Che è importante che sia. Invece qua stanno esagerando, fanno dei compiti d'esame che non li sanno risolvere neanche loro. Lasciala cagare. Guarda, Valdivia, ho contestato 3 domande, ma davanti a tutti, perché meno male che ci ho voluto rimettere, io ho contestato 3 domande, di cui una era proprio palese, secondo me ha detto, lo so, però una è più giusta dell'altra, no, grazie, cioè, se qui parliamo di cose non può essere una più giusta dell'altra, perché qui avevano dei problemi simili, vabbè, potrebbe essere uno più grave dell'altro, qui problemi meno. Niente, cacca, girato intorno, vedono uno è più giusta dell'altro, ma quel cazzo fa dire, cioè 2 più 2 fa 4, capito? Quindi devi dare una domanda e una risposta che sei sicuro, lui dice sì, tutte e 3 sono giuste, ma una è più giusta dell'altra. Affanculo, e vabbè, facciamo perdere. Buonasera, mi. Ciao Alessio, ciao all'altro che ha versato. Sì, perché poi ti lasciano a libera interpretazione, però ci sono delle domande dove possono andare bene anche 2 risposte, o 3. Non è giusto, perché uno deve farle specifiche, cercare di dare anche un aiuto. Invece sembra che stai facendo un esame per diventare cardiologo, cazzo. Guarda, non lo so, Vittorio ne è uscito perché ha una buona preparazione e gli ha detto che non andava bene l'esame, che quel tipo di domande erano fuorvianti. Comunque, mi sembra veramente che uno deve diventare un cardiologo o un medico. Avanti, che ha bussato, buonasera. Buonasera Walter, buonasera a te Fabrizio, a Bombonio e a tutti quanti della ruota. Antonio Bongo da questa parte. Ciao Antonio, buonasera anche a te. Presenti talk a voi. A me mi pare che è già vero quello che dicono, che sono a Cagliari, sono. E lì ho detto tutto, dai. Ti prendiamo un attimo di infantile. Ciao Antonio Bombolo, stasera ti sento, ciao. Sono la residenza lì. Via, ciao, saluti a tutti, ben sentiti. No, non c'è nessun problema. Andiamo a fare l'esame in cosa, in Emilia Romagna, capito? Una volta che abbiamo segnato le domande, arriva il terremoto, poi se ne fuggono, ti fai fermare il fuoco e sei a posto. Ma cosa, non le pulisciamo come se l'ho fatto, tutti canti la mappa di garanzio. Lasciamo perdere, va, che non voglio metterci lingua. Scappa. Poi Gianluca da Bottodorra, buonasera. Ciao Bomboli, allora, cos'è il vasto Bomboli, a te l'antenna hai? Che antenna, so chi scende con un maracchino, 4 watt. Ma dico, spostate l'antenna? Positivo, negativo. Ma io ci con la CQRN, allora ti sento bene, da. Meglio così, allora, da, una buon cazzato che riesco a sentire te. Avanti Fabri. Mi sentite tutti quelli che sono entrati e tutte le cose, mi ho perso un attimino che mi è arrivato di me e stavo leggendo una cosuccia, quindi riprendi che ho perso il filo del discorso, scusandomi a tutti, dai, riprendi e fai girare. Io non c'è problema, avanti Walter. Cappa. Poi Gianlu, dimmi come ti arrivo di segnale rispetto a Gianni Doppio Run, che siamo nella stessa zona, lui è molto più in alto di me, siamo lì, io sono vicino a Via Baldesa, in basso, lui è un po' più in alto, una 30 di metri più in alto. Cosa volevo dire Fabri, questa sessione chi è che va giù? Allora io vado e poi forse va anche, dovrebbe venire anche Antonio Rodder, da Sassari credo che siamo solo noi due. Speriamo bene, anche perché io devo uscire il venerdì, mi sembra, è un venerdì che ho casinato un lavoro, una cosa e l'altra, ma scenderò ugualmente, cercherò di liberarmi, non so nemmeno come farò, però devo scendere, speriamo bene, per l'ultima volta che ho avuto in Sardegna, forse non dovessi passare questa volta, prendo e parto fuori. fuori a darlo almeno le possibilità che hanno tutti gli altri partecipanti del resto d'Italia. Tu sei niente, quest'anno se hanno deciso di non di semplificare, di fare una cosa un po' più abbordabile, scegliela. Oh, so che sono stati pronti e basta. Adesso vediamo, non so se c'è Vittorio in sessione d'esame come delegato Ari per vedere di dargli una mano. Se c'è lui un po' più facile sarà, però, per quello che può fare. Lo speriamo bene. Speriamo bene, che in pochi siamo in pochi, non è che si sta male. Prima stavo cliccando per gli assenteisti, adesso cioè, dove, quando siamo in tanti e l'altro giorno c'era sporadico che ho fatto la Turchia in 2 metri, però solo ho detto ma meglio che nella mia zona non c'è nessuno, che ci siano radioamatori però lontani, distanti, però no, iniziamo i battimenti, gli splatti, ma è diventato un casino anche lì. E così, speriamo che passi anche Grosse. Mi dispiace non va Roberto, ma si è demoralizzato, l'hanno demoralizzato. Anche Galimberti, adesso non ricordo il nome, o ragazza, c'è quello, ma li metto questi 4 coglioni che sono lì, non far niente, se ne buttassero fuori dal lavoro sarebbe meglio. Avanti, chi c'era? Gianfranco, a te tu. Gianluca, allora prima di tu è 9:20 qua fisso, perché mi ha detto che sei più sotto di Gianni, aspetta Gianni, avanti Gianni. Gianni sta mangiando la pizza. No, scusa, vero, mi ero dimenticato. 9:26, Gianni adesso dovrebbe essere circa lo stesso segnale, poco più o poco meno. Che bracchino hai? È un K, 140. Non me lo presento. Però che abbia uno smitter grande, leggibile. Mi ricordo 30 anni fa quando usavo, no 30, 40 usavo. Capri 23 erano smitter che quando stavamo ai controlli ci dovevi mettere la pupilla dell'occhio dentro lo smitter. No, però qui lo basta, questo qui c'è lo smitter bello grande ed è giusto. Tranquillo, tranquillo. Adesso vedo un po' che ti vuoi ascoltare con altre radietto, vediamo un po' com'è questa qua. Allora, dammi il tempo che tu conduci un attimo l'antenna. Sta. Avanti, Antonio c'era, Antonio. Lessi. Come sempre si è abbastanza forte, quasi 9:30 con lo scala, sì, Walter. Non so io. Allora, ok, qua ci sono. Sì. Io sono a Sassari adesso, però 9:30. Poi Gianluca 9:20, Fabrizio 9:40, Gianni 9:60, Antonio 9:25, così 9:30. E lei se non me lo ricordo. Sì. Con questo qua cosa sono? Se per stesso segnale è un pochettino più alpino? 9:10. 9:10 con questo? Sì, modulazione chiara. Però è chiara, vero? Hai ragione. Senta, adesso facciamo un altro passaggio, ecco. Guarda, adesso un attimino, com'è la situazione? Uguale. Ok, perfetto. Molto di più qua, anche qua si è calato, la verità, non l'ha molto molto di più. Hanno parlato in due, Tu Lessi dove sei? Sempre là in via Milano, in alto? E io, via Valdarbasso, come ho detto. Sempre qua sono Walter. Ok, fa la cortesia, visto che stavamo facendo così, mi rendo un pochettino conto, Walter, fa la gentilezza. Guarda con questo qua invece il segnale com'è, nella radio soprattutto, forse anche aumentare un pochettino, però vediamo, prima di tutto il segnale si è migliorato. Ma adesso ci vuole che passi da 8 con i picchi di modulazione 9:10, 9:15, quando non parli 6:8, però come parli vai a 9:15. Ecco, era un poco così, invece è aumentato qualcosa, Walter? Sì, 9:15 sempre. Perfetto, comunque allora basta anche mantenerlo così, il Mickey Gain dovrebbe andare bene lo stesso. Sì, va benissimo. Ecco dai, perfetto, no, già sono giusti i controlli, già sono giusti perché sto guardando anche qua lo smitter. E così va. Dipende da come sono tratti questi micro, questi smitter, quanti microvolt, se le curature sono uguali, comunque, almeno siamo lì. Sì, se tu sei in alto là, dovresti sentire bene un po' tutti. Sei gestato. Sì, in alto, sempre in alto, ma sono tappato qua, Walter. Capito? Non è che mi ci va tutti bene. Non so quando domando, ma quando abbia 27L ci ho messo a te la dieta di Gran Paine e mi sono costruito una direttiva a mano, me la sapete tutta sotto, per poter ascoltare. Ascolto tutti bene, quindi non prendo spiate, non prendo niente, ci voglio dire perché uno in trasmissione, l'altro ricezione uso sempre. Allora, back. Cappala, io sono rientrato, saluto tutti cordialmente i nuovi entrati e risaluto quelli che c'erano da prima. Avanti, adesso di nuovo fai girare e dimmi chi c'è, perché io non ho fatto ascolto erroneamente. Ho finito adesso di mangiare e sono rientrato. Sì, cazzo, lo sai che mi sembri tu? Daniele mi sembri. Quando lo fanno lavorare con lui, se mangia il panino, io sono ancora a metà strada, lui ci ha finito di mangiare, ma ci ha bevuto anche l'acqua della minerale addirittura. Lo fai una buona, ma io ti puoi almeno la pizza. Sì, ho bevuto anche 2 bicchieri di birra. Ma cosa fai tu a mangiare così veloce, buono, mangi un peso? Mi fa male mangiare così, devi mangiare normale, non mangiare così. E ora ci è piegato ma con 10 minuti, e io? Sì, io non vorrei salutare sul fisico. Boh. Che c'è da questo? Si può mangiare in presa. No, però non ho mangiato in fretta, ho mangiato tranquillamente, non... È che io ho la bocca grande e ce ne sta di più. Ma allucinante. E poi io ti ho fatto riprendere. Non capire le pizze con Gianni, no? Perché quando ci pigliamo la pizza tutti assieme, io sono a metà strada e già finito di mangiare, ci piglia anche il secondo e il terzo. Se entra Leoncino, fatti dire come mangio il gelato io. Già, a me mi stai dicendo una cosa. Se non sai che ha rotolato un bambino con la vita dentro, ha tipo spianata, no? Ha fatto una rollata, ha fatto. Oggi, Alessio, a me che ti va a trovare Gianni, mangia come ti su con le gattoio. Sì, giuro, guarda, un giorno sono salito in corsi per sembra lui, e allora una bistecca, pensavo fosse una bistecca normale, per quelle che vendono a Sassari, per dire. Invece era una bistecca di quelle fiorentine. Beh, lui, io era prima mezz'ora a cercare di masticarla qua e là, non ho mai mangiato una cosa del genere, lui però tranquillo. Ebbè, non ti muove, io che dobbiamo andare a Sassari facendo. Ma insomma, fa la cosa, gli ho detto. La mangio la verità e mi mangio la pizza, ecco, ti devo dare a fare il culo, gli ho detto. Stiamo a finire anche 2 minuti, ma un coso. C'è presente quelle fiorentine che ci sono in tocca uguale. Vabbè, ma tu sei senza denti per quello. Vabbè, quel cooking che c'ho, ma almeno devo masticare. Cioè io non è che una volta mangiavo, quando stavo in posizione, mangiavo i panini, la verità o quello che c'era non riuscivo neanche a digerirlo talmente, perché a mezzogiorno facevo il panino e nel mezzo c'era già un cibino di diverso sotto a girarmi le palle, fammi quello, fammi quell'altro, e quindi poi adesso, cioè, quello che guadagnavo ce lo mettevo in birra, facevo un giro uno, giro l'altro, avevo più di tutti 30 cb, quindi arrivavo a casa alle 10:30 e che ne avevo di accelerare. Ma allora invece io ti dico la verità, dopo, prima di mangiarmi la pizza mi sono fatto un'insalata con i fagiolini e le patate, mi ho mangiato un po' di insalata, poi ho mangiato la pizza e poi mi sono mangiato un arancio. Boh, finito. Ma un bondo? No, perché non resistevo Gianlu, ero troppo affamato. Mia moglie è uscita con l'amica a comprare le pizze perché c'era l'amica a casa e sono voluto andare loro. E poi ordinava a casa, diceva andiamo lì, ci facciamo una passeggiata e vai. E ci hanno fatto la fila tutto gatto, e sono arrivato tardi, quindi io nel mentre mi sono un po' riempito il buco nello zoo. E invece avete vicino la pizzeria, mi sembra di me, come sbaglio. No, ma no, noi non la prendiamo lì. E la pizza, loro c'hanno il posto dove vanno, perché non ci piace in tutti i posti a noi. La prendono in un posto, loro, dove vanno sempre la cassaforte. Che cazzo? Non c'escono già. Ci piace lì. oppure prendiamo quei panini, quelli ben fatti. Un giorno Gianlu, quando sarei a Sassari, andiamo a mangiare la pizza in quel posto che ti ho detto. Sono curioso, guarda, veramente. Mi piace per Giovanna, Giovanna, ho già pipistrello, mi hai detto? Andare. Come c'ho un servizio di Sassari che esce in tempo tranquillo, ti avviso. Avanti, Walter. Walter. Ehi, scusa che l'ho distratto qua parlando. Allora. E beh, beh, bambino, come sta? È lui che mi sta distraendo, lo sì. Non sta fermo un attimo, è troppo quieto. Gianlu, quanto ti arriva già nel vostro arrivato? Allora, aspetta che prima lo guardo con... Che adesso sono con un'altra radietta ancora. Adesso metto come con quella che ti ho dato a te il segnale. Gianlu, un attimino, ti avviso io e mi fa un passaggio, un secondino. Mi prendi anche un po'. Sì, ti do quanto vuoi. Tu dovresti arrivare per questo di tutti lì a Porto Torres da lei. Sì, boh, non lo so. Di solito, cioè, tra me e Claudio c'era un paradosso un po' di tempo fa, quando c'era l'antenna nella tua fianco, non stavamo durando come niente per dire. Eppure siamo vicini, io sono più basso di lui e lui molto più alto di me. Poi ha cambiato capo e... l'ha spostata nel tuo anche io la prima e adesso mi sembra siamo pari se non mi ricordo male e poi ha detto per me c'è qualcosa che non va detto Claudio è uscito un po' ha detto dottore se adesso ho detto adesso mi sembra 3-4 di più di te e lì mi è venuto il dubbio capito per lui infatti gli ho detto quanto va di tutto ho detto, perché mi sembra stata la cosa io vabbè come antenna ce l'abbiamo 27 anni gli ho detto e non c'è la mantova, non c'è la mantova tu, così gli ho detto ma se ti sobbetto con la B27 mi sembra che ti non sa la cosa infatti ci aveva controllato tutto e aveva dei problemi non so se arrivo più forte io di cioè mi ha proprio messo la strano tu con quanti watt stai scendendo lì? Io 7 con 50 sono con 680 non ho mai messo di meno. Vabbè, l'ho appena acceso adesso, E sono 30-40 watt, non di più. Perché di solito quando lo accendo io lascio sempre 50 watt dopo un po' di minuti che stiamo durando. Ecco, guarda, adesso sono anche così. Guarda quanto ti arrivo, Gianluca, Gianluca. Niente, più sopra non ho 20, ma un pelo però. Mettere proprio 920 nella spaccata dove c'è scritto 920. Schiaccia Walter, uguali. Walter, siete uguali, dai. Nel senso l'avete fatto, avete modulato, bisognerebbe vedere a portante bianca senza parlare, per vedere proprio dove si ferma il zipper. Ecco, tu chi sei adesso che schiacciato? Walter. Perfetto, vai Gianni. Mo sono io. Siete uguali, Guarda, qua mi sta filiando proprio, guarda, dire una cosa, ma proprio un pelino proprio al sotto la lineetta dove c'è il 20 già. Capito proprio, ma comunque il 920, il segnale 920, là, perché proprio è attaccato lì. Gianlu, dai un controllo invece per capire come sta arrivando lì. Sì, quasi 920. Una potente multa. Guarda, dovresti essere all'incirca 9, 18, 17, proprio leggermente più sotto di Walter e di Gianni. Sostengo. Aspetta un attimo, Alessio, prova con un passaggio tu un attimo. Ok, aspetta. Metto 50. Ecco qua, 50 watt. Dovrei essere 9, 10 se non ricordo male. Infatti sono 9.10, ma mi ha detto che parla su tu, oggi tu non vai sotto del 9, quasi che tu decidi mi darei niente. Infatti tu sono 9.10. Infatti, no, io mi ricordavo le 9.10, guarda mi sembra che arriva da un po' di tempo fa 9.7, 9 qualche cosa, mi ricordo di segnare di Sandro, più che altro. Comunque, dalla zona dove Fabrizio dovrebbe arrivare molto forte a te, perché chiedi che ci sarei proprio di fronte, invece io sono più distante, anche se sono molto più aperto in pratica, e vedo tutto, in pratica sono più lontano, come angolazione siete molto più vicini voi di me, capito? Gianlu, ecco, adesso ti sei abbassato già. E adesso sono proprio con 9 watt. Guarda, adesso prima ero con 50, adesso con 9. Adesso come sono? A 9,5 quasi a 9,10, quasi a 9,10. E va bene lo stesso, non è che sia un segnale brutto. Assolutamente no. La volta cosa, parlare di un pezzo 9 e 9 in poi. Ma andate benissimo, perché io qui essendo da Porto Torso, a zona di mare, qua quando comincia queste propagazioni con spagnoli arrivano, guarda, fortuni, veramente forti arrivano questi qua. Ah, pagava. Il gruppo è un passo, ho già lui, io non sto arrivando con 4 watt, normale. Guarda, a Bomboli, sì, cantiamo di sì qua, se mi avete avuto un aiutino di radio un pochettino più grande sarete stato a posto. Come altri normali sono, senza nessun coso. Ma va a provare a punire un maracchino vanno, a vedere. E la pulita che cosa è la bifocca, a me? Bomboli è cagliato una bombola a gas, magari riesce a farlo schicchignare un po' di più. Un telecomando, magari. Mi attacca la bombola al gas col telecomando, ho fatto per trovare le cose, poi l'antenna, io attacco l'antenna con 100 metri di capo, fa salire sulla bombola, poi scende di colpo. Sì, c'è una zona buona, sicuramente è l'antenna che è messa male come te, se no non arrivavi più forte, è impossibile che arrivo più forte io di te. Qua in basso alla mia palletta non è possibile. Cioè, guarda, te lo vedo a viaggio a 210 metri dal testa dove sono io, tu sei minimo a 250-260, 50 metri in più, sai cosa vogliono dire? Infatti vabbè, poi per Salghero, Ussi, quelle zone arriverai senz'altro meglio. Per la zona del mare è nostra. Walter, tu sei molto più vicino a Papa Dottores, se io avessi abitato in Via Vicendo ti avrei fatto il culo come facevo una volta da lì, se ti ricordi bene. Qua la zona è diversa dove sono io, sono in basso, ecco, io sono attaccato alla cosa, mi sono, ti ricordi bene, attaccato a Pier Giacomo sono, quindi figura di tu, sei dove Pier Giacomo, io sono la stessa altezza di Pier Giacomo. Hola, la mazza di Tenevaria. A presto, a vedere, Porto Torra. Adesso sono uscito più forte anche di radio, lì. Quanti sei, se sei, Bomboli? Ma adesso sto spingendo, dai. Andare. Come adesso, la bombola da 25 o da 50? Come stai dicendo? Ehi, è chi? Ecco, state attaccando roba. No, sto attaccando, no, non attacco quello lì, no, guai. No, se no sulla televisione, hai capito? Un giorno provo con quella cosa attaccata a vedere come arrivo. Capo, c'è il batte del baracchino. Migliorato la te, Fabri. Sì, meglio, arrivi sempre bene, arrivi sempre buono. Ma io c'ho ancora scrivendo queste le mie coordinate, avanti. Ben sentito fuori a me, ma forse ti ascoltano gli altri, è già dottore Archibald da Sassari, cioè tu Archibald da Portatore, adesso comando verso Sassari, avanti pure, poi a salutare gli amici, c'è Walter, Gerardo Purrum, Fabrizio Pigliato, Bombolino da Croce, Alessio da Sassari, sono aver detto tutti, avanti Archibald. Ecco. Buonasera a tutti, salutoni a tutti quanti, Salvatore che vi cordializza. Ciao Salvatore, stava parlando Archibald da Porto Torres, non lo so. Tu sei Archibald, buonasera, sei più Roma, avanti. Ti tiro fuori, mancanza di QRM, ti tiro fuori Archibald, anche perché sono in cuffie la zona per Porto Torres, è favorevole per me, dai. Comunque, ben sentito, sta la primiera. facciamo qualche cosa per migliorarci, dai, che qua se si ingrandisce un po' anche a Porto Torres la ruota va meglio. Ok, dai, allora lo ringrazio, dai, saluto a tutti, anche la ruota, provvisoriamente in situazione precaria per l'antenna, dovremmo dire avere dei miglioramenti almeno questi giorni. Mi sembra che è entrato anche Gianni, mi sembra c'è stato un altro ingresso, un altro corrispondente lì da quelle zone sue, forse. Ehi, è Salvatore, ciao Salvatore, buonasera, avanti. Bellissimi. Salutoni a tutti quanti, ben sentiti, saluto i circolari, così non rischio di dimenticare nessuno. Prego Gianni. Allora, siamo in compagnia di tanti amici, c'è Walter, non so se tu hai fatto ascolto. Siamo in tanti, non vorrei dimenticare nessuno, comunque ripeti tu Walter, fai girare così almeno Salvatore si renderà conto un po' di chi c'è se non ha fatto ascolto, avanti. Tutto anche Archibald, se ascolto, se S5 Radio 4, un po' di rumore sul fondo quando parli, però il segnale è 4-5 con un po' di questi lì a volte. Buonasera anche a te. Ciao Salvatore, modulazione più da Landa delle Camezze che era 27. Va bene, ben sentito, arrivi forte qua, 9 più 50. Il segnale che hanno gli altri, quelli di questa zona, compreso Fabrizio. Riprendi Fabrizio. Ok, riprendo io, ciao Salvatore, ben sentito. È tutte rose. Beh, oggi la ruota è abbastanza larga, dai. E io perso nuovamente il conto, mi sto sempre girando, posso proprio dicevo finire delle cose. Niente, dai, riprendi tu Salvatore, salutoni, fai girare, poi inizia a seguirlo un po' perché sono distratto, oggi riprendi Salvatore. Grazie Fabri, e quindi adesso che ho finalmente inquadrato tutti noi vi posso salutare molto meglio. Ciao carissimo Walter, Gianni, Bombolo, Fiber, sicuramente tanti altri amici in ascolto, il buon Pomponio e poi Gianluca, se non ho copiato male. Walter, quindi da decametrica, non la sto toccando più, guarda, questa regolazione, oramai sto andando in banda laterale con questo stesso identico setup, mi sto tutto sommando trovando bene, tutto sommato perché è una modulazione comunque discreta anche per la 27, cosa mi dici? No, per me va benissimo, sei vicino a me, in questa zona arrivi 9.40, 9.50. Visto, tu sei aumentato, prima di 9.40 sei 9.50, 9.55 anche, più forte. La modulazione è molto devastante, è alta. Ma arrivi bene, è una modulazione a scalotto, diciamo, nel senso dell'attore, non c'è nessun problema, nessuna distorsione, quello. Di cui che le antenne che ho visto lì vicino a Filippo, mi si chiama, vicino al bar America. America che via è? Via Principessa Maria. Sono queste che le verticali. Di puli non sono riuscito a metterne. Sì, due, e adesso poi ho tirato su l'antenna verticale che ho usato con il palo, infatti ci ha isolato, ma c'è un paio di perrucole per poter stendere più avanti se il tutto va, per poter montare qualche di paura. Perché non devo andare, speriamo. Lì attaccato a te c'è Nando, però le sue antenne non si vedono neanche per poco. Tutto bene Giovanni, io di Polo mi ho messo, da notte ho montato giù, ho montato un altro super con tre braccia a 120 gradi, 24 metri, ho montato quello e poi sopra con il radiatore con il condensatore Jennings, fino a 20 kW non fanno problemi, quello è di, come sistemino che arriva, poi ho fatto un dipolo 40-80, unica discesa, con un cavo solo, parato piano piano, sali scendi con le carrucole, dopo un'ora di rompimenti di scatole sono riuscito a portare la 1.3, 1.2, fanno veramente bene, un sistema che ti consiglio anche a te per risparmiare sul caso. Quindi praticamente di metterci vapore sopra. Ah, non metti niente. No, vabbè, quello lì è l'altro slooper, quelli sono in 80 metri, ci vuole un commutatore pesante, di buoni, di potenza, è un altro discorso. Fanno proprio il dipolo con un cavo di discesa e utilizzi, puoi fare 80-40-20, poi dallo stesso malum, puoi scendere le trombracciano, i dipoli, legati nelle varie postazioni, puoi legarli con un'angolazione di più o meno 120 gradi, anche se poi viene un po' di sguincio, credimi, non gli fa niente, sono tensionati. E tu dici, allora io adesso sto usando un balloon, ho fatto uno, un rapporto 1-1, ho costruito, poi ho fatto uno 1-9 e uno 1-4, però quello che sto usando adesso vuol dire che sto usando 1-1 come cosa e come stazionario, sono riuscito a ottimizzarlo. No, ma io non ne ho messo neanche, si mette già qua, non ne ho, uno non, io non ce l'ho, nell'altro no, perché io uso potenze alte, non, a volte mi saltano in aria, li pulverizzo quei balloon, lì come tengono 3 kW e saltano in aria con la metà. Non ho messo niente, ho messo proprio i bulloni direttamente con le capicorda, ho fatto le misure i tre bracci per farti. Messo su, tirato poi ovviamente in tre direzioni un po' di sviluppo e funziona, dico, alla grande, facendo un bel po' di collegamenti. Poi ho l'altro per compararlo con altri dipoli simili e ti dico che addirittura con questo arrivo anche meglio. E così, questo è l'altro gruppo, chiude le due, un braccio e va, ne chiude due e va con quello che selezioni, una specie di direttiva diventa, no? Semidirettiva, il guadagno è minimo, proprio ti rendi conto che è poco, però sai quando fai il Giappone in 80 la notte, parti dal sentirlo a benino a non sentirlo. Ho capito, quindi tu dici di tirare su un dipolo, anche che ho tanto potenza così non la devo usare, anche un domani non la devo usare, però comunque dici di portare su un dipolo un balloon per esempio con la porta 1 e fare collegare al cimitirizzatore, magari cimitirizzatore collegare i vari, come si dice, i vari bracci con le varie lunghezze. Bravo, le stesse. Scendi giù e vedrai che funziona, e usi un dipolo, tanto non è che puoi trasmettere in tre frequenze contemporaneamente, no? Non, anche ascoltare, molte volte lo facciamo per siamo fissati, tre frequenze, non è vero niente. Usi sempre una radio quando fai collegamenti, altre puoi ascoltare in basso, ma per ascoltare puoi mettere su un pezzo di filo un'antenna non dedicata. Quello ti risparmia tutte le discese, tutti i casini quando sei in un condominio, come sono anch'io adesso qui a Sassari, e vabbè, io non ne ho ancora di puli qua, non so quanto ci sarò. Qua c'ho una Mantova 1, una CP6, due X7000, quelle antenne per le tribande, come 1200. Però l'ho fatto giù al bunker questo sistema, che conoscevo da tanto tempo, e non è che ho scoperto l'acqua calda, l'ho scoperto io, ho visto da altre parti e poi ho detto che lo faccio. Mi sono messo una sera, l'ho fatto e il risultato è eccezionale, credi. Prova, mi darà la risposta. Il risparmio è sul cavo, i miei sono identici, devi ottimizzarlo piano piano, se lei scende dove incidisce. E allora farò, adesso c'è caldo in questi giorni, se non mi serve prendo la pentola per iniziare a prepararlo, tanto ne ho uno, quello io lo posso portare ancora più in alto e ottimizzare. Sì, scusando gli amici della volta, perché volevo chiedere un'altra cosa a volte, ma come mi dicevi tu, io ho capito, ma io ascolto molto, ma non ho mai sentito questo radiomatore, faccio molto ascolto, capito, ma non ho mai sentito io questo radiomatore vicino a me, però il palo, quello di Paolo, però non l'ho mai ascoltato. Sento le modulazioni sotto, non sono strumenti di propagazione, c'è qui il rumore del bambino del televisore. Non l'ascolti, è un radiatore della nostra sezione, parato. Non l'ascolti perché è poco attivo, c'è una lua, una slooper, c'è una slooper, una antenna random, una window, chiamala così, dove ha una parte più corta dell'altra, sai come è fatta, una verticalina per i due metri, e fa solo telegrafia. Telefonia poche volte con noi in FM, è sempre in telegrafia. Ho capito, la telegrafia giro perché non ne so, quindi scusate il rumore, e quindi è così, ecco perché lo vedevo così, perché dopo si accavo ascoltando questo lo dovrei ascoltare forte, ho capito, vabbè, riprendi Gianni da fai girare. Ma c'è qualcuno che ha un progetto pelota o qualcosa del genere? Chi è? Però come l'altro giorno, quando è qualche mese fa, c'era la propagazione, uno di voi, non tu e non Fabrizio, qualcuno, che lo rispondeva in italiano, in cesarese, e questo qui era croato. Vabbè, ce n'è stato uno che l'ha fatta grossa, una volta sono caduto dal letto dalle risate. Questo qui ha detto, da dove è venuto lì? Portugale lui, da Portigali, cazzo, tacca il ridito, non mi la facevo più. C'era anch'io, già me lo ricordo. Piangere, allucinante, e vabbè. Gianluca la Porto Torres, a te il mic. Scusando gli amici perché ho un certo tipo passaggi, mi sono leggermente spostato un attimino su un altro canale che stavo facendo i controlli, cioè mi dai un attimino la gentilezza di aspettarmi, finisco un attimino con Tore, così che vediamo un po' con un attimo di passare qua, scusando anche gli altri amici, avanti di prendi Gianni. Sei un po' saturo, Gianni. Sento un po' saturo, vabbè dai Gianni, non c'è problema, buona questione greca allora. Mi raccomando, convincilo a metterci l'antenna. Propagazione, ciao Gianluca, produttore. Grazie delle quattro chiacchiere, a presto, 73. Walter Diabuli. Lo senti Gianni, lo senti? Io lo sento. Come si chiama? Samuel, ma è terribile. Non sta per un momento, sta per Antolatto. Eccolo lì. Dai. Come quanto c'ha adesso va? 22 mesi. Chiocca Rosetta, buonasera. Chiocca Rosetta, buonasera. Ha vinto il tuo compagno via. Di fuori comunque, non sono riuscito a sentire neanche una parola. Ci sono anche gli spagnoli. Dove vai adesso per meno dai? Niente. Caspita, questo è bello forte. No, bello forte a me no, a me mi arriva a 3. Anche a me. Vabbè, la zona è uguale. E se sei vicino di casa c'hai a Leoncino. Portoghese o spagnolo, questo è 304. No, non lo so. Ne qualcuno vicino qua, forse. Don Walter, c'hai un vicino di casa a Leoncino. Ho capito, sarà qua vicino, l'ho sentito una volta. È dietro di te. Praticamente abbiamo più furgoni. Allora ho sentito una voce, ho parlato. Anche lui non riesce a attenuarlo, arriva a forza, ma non che non uso un altro apparato, ma con l'847 è abbastanza generoso. Pappagappa. Va bene. Chi è rimasto? Chi deve girare, dai, chi è rimasto? Avanti, chi ci siamo dimenticati. C'è anche l'altro amico, la parola che è con Gianluca, chi ci siamo dimenticati. Salvatore, prendi tu, dai. E Pomponio, non l'ho rilanciato. Pomponio. Ah, è giusto, c'è Pomponio. Avanti, Pomponio. Così, nostro Atena, bravo. Pompuccio. Ciao, per nome, molto pompa. Starà facendo qualche bionda. Non capite male, la birrotta. No, abbiamo capito bene. Perché cosa entrava rosa verde? Che bella rosa verde, gappa. Un attimino che mi devo fare una bionda. Che carità, è un magazzino, ma morto è. Ah, Ah, mi hanno detto di sì, io lo vedevo sempre sulla Budi Budi con questo cappotto pesante, lungo, con questa sacca sulle spalle, ma poi non l'ho più visto. E da un bel deve essere morto anche. Catalina 2 ci aveva, me lo ricordo ancora. Catalina 6 canali. 20, mi pare che sia 23 canali. C'era anche il 6, che lo usava Marina 7 nel 72-71. C'era il Polish, i canali, quello con la ricezione dal microfono. Però ce ne ho molti di quelli. Walter, ma ogni tanto gli dai corrente? Sì, caricare il condensatore. Ogni tanto li prendo, li attacco la metà qua, e ne ho attaccato una ventina l'altro giorno. E li lascio qui con la notte. Mi sa che tuo figlio si è scopciato. Quanti anni ha questo bambino, Walter? Ah, mamma mia, una cosa, un incubo, come già seccato. 22 mesi. Quello vabbè, anche io sono bambini piccoli, un po' più grande ancora, per quello che te lo stavo chiedendo, però sentivo che stava protestando. No, gli ho dato un giochino che ha preso le patatine, io l'ho aperto, ma dico cosa mi vuole dire, poi si fissa, non sta formulato. Quando lo tiene in braccio, solo il 754 in America qua, l'ho bloccato senza chiuso, senza trasmettere. Se lo accende, dovevi vedere come lo mette sotto tortura. Vabbè, buon sangue non mente. No, speriamo, perché gli altri figli, io appunto, ho detto che quando sarà, si vendono tutto. In questo abuso, non vuole venire una errata, speriamo che a questo almeno gli venga un po' la voglia. Ogni tanto prende il microfono, fa finta di parlare perché non sa parlare, tira, gira le cose, schiaccia il tasto quando vede le luci, capite? Gli piace, però è troppo piccolo per capirlo. Ma se poi non gli piace, già me la prendo io prima. Ma c'ho 20 figli, se sono io due, uno di 3 anni ne fa 4 a luglio e l'altro ne fa 9 a settembre. Ma non ce n'è uno che ha l'hai sospirato il picco, mi sembra più, però sono capulli, no, io ho mille passioni, no? E vabbè, la radio, mi vengono qua, chiuso dentro un po' di radio, non è che entrano a curiosare, sai, ma niente, ci rimangono a distanza, come che non esistesse questo posto. Ho la passione io di Mauro, la macchina d'epoca, non ero più dura, ma da duro ci fece. Non ne frega niente, se non fanno un giro, però quello è che quando sei vado giù a farmi i lavoretti, ma io restato. Come loro se ne fuggono, perché hanno paura, se non saranno paura di andare a lavorare, io non li capisco. Educati bene. Ma voi educati bene, che rassomigliano a me, se no mi sarebbero molti dubbi. Pastore, Samiano. E uno ne fa 3, ne fa 4 il prossimo mese, a luglio, e l'altro 9 a settembre. L'altro? 9 a settembre. Ah, è grande quello allora. Il mio fa 2 anni a luglio, il 26 di luglio. E tu quando lo curi ti metti un orario dentro il letto, quando si sveglia ne metti un'altra divisa che non si prende la faccia mai, magari. No, questo te lo stavo per suggerire perché io l'ho già fatto, l'ho fatto addormentare con quel rema di 160 metri, è un radio come le vede, guai, è che io non li portassi ovviamente, però quelle, quando sono andato qui davanti alla stanza dell'alimentatore, come si chiama, l'IC, il PS30 con il 751 America, quello sa già che te lo lascio toccare perché è scollegato da tutto, con un carico fittizio, accende l'alimentatore, poi c'è l'accordatore l'IC AT100 e sta sempre girando tutte le bande, non sa cosa sta facendo ovviamente. Poi quando sente un po' di rumore già nel VSO che la modulazione non riesce a chiarificarla ovviamente, però gli schiaccia e fa dice parole non senso, anche perché è bilingua, capisce, io voglio slovacco, lui capisce benissimo, slovacco parla quello che dice il slovacco che è in italiano. È bello così bilingue, che è bello, bellissimo, quella buona cosa. Cosa fai tu, gli parli in italiano e tu vuoi parlare nella sua lingua? Sì, ma capisce di più lo slovacco. Perché vuol dire che è stato con tua moglie? Stato con lei e poi è stato adesso 3 mesi là, 3 mesi. nonni e tutto, viene qua e di nuovo è identico. No, capiscono tutti e due, si abituano, secondo me anche tre lingue riescono a imparare insieme ai bambini. Fa insegnare loro dall'inizio, essere pazienti, non c'è problema, per me. Erico sa, uno l'ha preso a 10 euro, figure. Ormai, speriamo che tengano queste cose da Ryanair, se no è un disastro. Infatti speriamo che mantengano, se no è una rovina anche. L'unico che non puoi viaggiare con gli altri gestori sta diventando una cosa vergognosa, minchia, come fare il biglietto per andare a Roma e ti guasta, cioè se devi partire fra 3 giorni ti guasta, continuità territoriale, devi imbarcare la macchina. Fino a 2 anni fa io spessissimo imbarcavo d'inverno, minchia, pagavo andata e ritorno, bucera 120-130 euro, lo fai adesso d'inverno e ti costa 3 volte tanto, non si può andare per 2 giorni così, sta, però la fame che c'è in giro non si può più fare niente. Lo so, ma guarda che io viaggio purtroppo molto, dunque sono a conoscenza, tariffe allucinanti, però la Tirrenia pure, prendo quella anche perché c'è sulla Tirrenia la Grimaldi quando c'era qua, non c'è neanche più la Grimaldi, che quando c'è il mare mosso è quella che ha lo scafo migliore, 55.000 cavalli, e una volta la Grimaldi è rimasta fuori in rada e la Tirrenia è entrata in porto. Solo per quel motivo lì, però non si possono pagare 340 euro macchine e cuccette. Sì, ma infatti impazziti, non, io viaggiavo con la, spesso con la Mobi, quella con i pupazzetti disegnati. Se 2 anni fa spendevo, cioè niente, dico che mi mancavo la macchina, la cuccetta, sapevo, cioè 120, 110, 90 euro, 130 euro, c'è una cosa vergognosa, è stata anche poco, cioè come dico, una volta imbarcare, una volta si trovavi 2 giorni, vuoi fare qualcosa di più rientrati, e per 2 minuti in nave, a fare spendere una stronzata, lo fai adesso, hai detto proprio su 3 volte tanto. La Mobiline, lo so, vergognoso, mando peggio ragazzi, io che vivo un po' qua, ho la doppia residenza fra l'altro, che fuori come vanno le cose, credetemi che ci stanno prendendo per il culo, ma la grande, non voglio toccare questo tatto, se no nel malo muore, come solo per le navi e per tutto, pressione fiscale, è una presa per il culo totale, lasciamo per avanti Salvatore. Sì, ne parlavamo anche noi stamattina a riguardo. Sì, no, è allucinante. Il bello è che adesso stanno facendo le proiezioni di quello che potrebbe venire a costare la roba oggi se si tornasse all'uso della lira. Da incubo, per carità. Gianni. Io ti dico una cosa, ho conosciuto un francese a pronto soccorso l'altro giorno, stavamo parlando di medicinali e cose, ho detto, ma voi li scaricate i medicinali e cose, ho detto sì, e io gli ho detto, noi facciamo a 7.30, li scarichiamo per dire l'anno prima, l'anno dopo ci ripartono, comunque è rimasta bocca aperta. E tra noi praticamente quando prendiamo i medicinali ci rimborsa dal 70 al 100% e il giorno dopo ci danno i soldi. Bah, lo spagnolo vuole dire la sua. Sono altre cose, sono altri modi di vedere. Quando si fanno riferimenti anche ai sistemi fiscali degli americani, cioè quando ti dicono che viene messo nel conto, nell'area della famiglia, tutto quello che effettivamente è stato speso, ma tutto per tutto, e poi su quella spesa si ragiona, è un altro modo di vedere le cose, è un altro modo completamente diverso. E da noi questo non si fa e tende anche questa situazione ad agevolare quella che poi è un'evasione, perché è evidente che tutti quanti, soprattutto in un periodo come questo, quando abbiamo l'opportunità o la necessità di fare dei lavori, ad esempio in casa, affidiamo a un operaio o comunque a uno specialista che ci fa la solita domandina, sa, con l'IVA al 21 le verrebbe tot, ma se verrebbe tutt'altro, è chiaro che uno fa un calcolo di quello che è l'eventuale risparmio e dice no, non mi faccio la ricevuta, non mi faccio questo, non mi faccio quest'altro perché mi conviene. Se invece viceversa tutte quante queste spese fossero entrate nel computo generale, la gente sarebbe stata incentivata da chiedere per ogni minima spesa che effettuava anche per la propria famiglia, le ricevute, e sarebbe emerso tantissimo nero che altrimenti viene coperto da questa situazione. Ma me l'hanno fatto anche dal dentista, la stessa cosa, con ricevuta tanto, senza ricevuta, però dice proprio. Scusa, tu cosa fai? Cosa gli chiedi? La ricevuta? Non la chiedi, no, perché cerchi sempre di risparmiare, e quando sei un poveraccio, soprattutto ti fa piacere risparmiare quelle poche lire. Però è sbagliato allo stesso tempo, perché si autorizza quello di fare a fare il ladro, a diciamo non pagare le tasse, e poi quelle che non si ha pagato noi ce le paghiamo noi lo stesso, quindi bene o male i soldi ce li metti sempre. No, tu te le dai confuse, Gianni, non è vero che te le paghi tu, guarda che se le tasse le pagassero tutti mangerebbero il doppio di quello che mangiano adesso, ma è un dato di fatto consolato, sacro, che non esiste, no, ladri come noi non ce n'è altro in Italia, non è così. E tu sei complice, non lo fai così allora, no, perché sei complice, allora perché lo fai? Lo fai perché non si può andare avanti, ti ha fatto il discorso giusto Salvatore, se lo Stato ti permette, giustamente lo dovrebbe fare, perché non c'è che prenda esempi dagli altri Stati, perché se in America non paghi le tasse ti arrestano, per dire, no, hai problemi, non arrestare, hanno arrestato al cartone, adesso non credo che sia così, comunque hai problemi sicuramente, si incasinano la vita. Però cosa succede in America? A parte che la pressione fiscale che diventano il 22%, adesso non ricordo più la percentuale, ma siamo lì, in Slovacchia che va lo stesso il 20%, è una aliquota accettabile, ma in Slovacchia si scarica tutto, come in non come in America, di meno, però in America hanno i cestini, anche in Canada, nell'ingresso delle case, quei vasi grandi, poi butta tutti gli scontrini, perché lì ti scarichi veramente tutto, tu fai il falegname o lavori alla cobba, con due capita lavori, compri le sigarette e te le scarichi, compri la macchina e te la scarichi, ti compri una Ferrari e te la scarichi, vado proprio all'eccesso, no? Compri qualsiasi cosa, hai gli scontri o le fatture, e sì, allora no, è normale che li chiedi, perché li puoi scaricare, ma qui che cosa chiedi che ti costa tutto di più? Cosa chiedi che non ti puoi scaricare niente, che lo Stato ti mette dei paletti in tutte le parti e che solo per massacrarti a mangiare loro la casa? Però il Grillo cosa farà quest'anno? Uia! Guarda, se posso, allora, prima di tutto, con la storia di scarica una cosa e l'altra, tu considera che adesso c'è questa storia delle lingue che ci guasta, no? C'era giustamente perché aveva un figlio disabile, ci sarebbe dovuto essere una detrazione, perché già è una, che c'è un figlio disabile è una cosa tragica, in più un povero Cristo, come la maggior parte degli italiani, dà tante di quelle spese oltre il dramma, quindi se risparmi qualche cento euro sarebbe tutto di guadagnato, e hanno tolto anche questa cosa, quindi hanno prima c'era e sono tolto, se c'è un figlio disabile non c'è nemmeno uno sconto sull'imperdire, e quindi alla fine è proprio così, più ne dai più se ne mangio, e perché se tu vuoi non prendere tasse per legittima difesa, capito? E per legittima difesa o voi o me, cioè sono delle alcune categorie che sono i liberi professionisti, quelli che va bene, uno che ha un'impresa, uno che ha una partita IVA, oggi se non paghi, se dovessi pagare tutte le tasse domani chiudi, quindi legittima difesa. Gianni, così, tu sei dipendente e lo vedi in parte, poi lavori in un'azienda dove è anche un settore che tira per quanto può tirare, ovviamente su molti articoli ha perso, perché anche lì gli articoli che sono considerati superflui non vanno venduti. Oh, diciamo che il settore alimentare, bene o male, la gente ha soldi per mangiare, li spende, non, vieni di prima necessità, è quello. però in altri settori non ce la fai, lo Stato ti mette tante di quelle cose, salti in aria, salti. Allora ti faccio un esempio stupido, lo stipendio medio in Slovacchia che è 780 euro, 900 euro, entra su un sito qualsiasi, guarda c'è un sito Buongiorno Slovacchia, in italiano, è quasi preso in italiano, e tu noti, vedi le differenze, lo stipendio medio è 800 euro, ma con 800 euro fanno la vita che fa uno che qui prende 1700-1800 euro. E questo è il discorso. Le tasse sono bassissime, sono il 20%, per me anche troppo secondo me, anche se poi io ne pago molto di più, però il 20% diciamo che è una cosa un po' equa. E puoi scaricare la macchina, l'assicurazione della mia macchina, qui pagavo 3.000 euro, io la mia BMW pago 190 euro con la targa slovacca, perché ho la residenza lì, ne pagavo 3.000 Gianni. E il gasolio costa molto meno, le gomme costano la metà, tutto così. E dunque ti rendi conto di quanto sono ladri in Italia, perché qua ti raccontano delle coglionate, è solo quello. Poi abbiamo un debito pubblico pauroso. Perché quando ci sono i soldi si rimane a niente, poi questa non ci sono mai soldi. Comunque io sono dipendente Walter, io le tasse che pago, quello che devo pagare, non posso scappare perché dalla busta paga me le detraggo direttamente, quindi essendo dipendente le tasse sono fisse su tutto. E vabbè, comunque vedremo dove andremo a finire, perché se si continua di questo passo e la gente non si ribella, guai. Posso, se posso, l'ha detta giusta quando ieri Friedman alla Ballarò, cioè voi diceva, sosteneva in soldoni questo discorso, voi in Italia avete delle retribuzioni che non vi potete permettere. Faccio un esempio, diceva lui, il vostro capo della polizia che è stato dopo le cronache perché piglia 500.000 euro all'anno, eccetera, eccetera. Considerate che qualora la proposta che era stata fatta di dimezzargli lo stipendio fosse andata in porto, anche con il dimezzamento dello stipendio andrebbe a prendere il triplo di quanto ad esempio da noi in America viene retribuito il capo dell'FBI. E la dice lunga. Sì, lo so, è da Manganelli, 620.000 euro di stipendio, no, è allucinante. Gianni, io ti faccio una domanda stupida. Allora, tu prendi un X, 2.000 euro, comprese le tasse, no? Le tasse ovviamente te le versa il tuo datore di lavoro. Dunque, se il tuo datore di lavoro ovviamente non è facinoroso, non produce, non ha la forza finanziaria, al limite non te le versa neanche, no? Perché non ce la fa versarle. Dunque, le versa lui per te, perché funziona così. Ma mettiamo il caso che invece che versa il tuo datore di lavoro ti dice, ok, tu hai 2.000 euro tra stipendio e tasse e tutto, 3.000, quello che è, 3.000 euro. Se gli danno tutti e 3.000 in mano, a fine anno vanno a pagarle le tasse. Scusate che tu subito non ne hai. È normale. È normale perché loro si lamentano sempre, dice che pagano di tasse quanto lo stipendio, che ci pagano lo stipendio doppio pagando le tasse. È così, io ho un meccanico, il fratello di Vittorio, per farti capire, su 1.200 euro di stipendio, 1.480 euro di IRPEF, di tasse nella busta paga. Un esempio del Facchio così, no? Che lavorava adesso poi ha finito in officina, e così gli altri che ho in officina, nei trasporti liberi, lavoro di meno e ho degli accordi miei con gli operai. Però cioè non riesce ad andare avanti, perché tutte queste cose poi si ripercuotono sull'utente finale, su te, su tutti, no? L'aumento dell'IVA. È un disastro. Qui o si trova un giusto equilibrio, ritorna a lavorare, a rimboccarsi le maniche, a non rubare come hanno rubato, ma tu guarda ogni giorno a Striscia, guarda cosa hanno buttato i soldi pubblici, cosa si spendono, quella faccia di culo di Monti che continua a dire sì, è giusto ormai che è così, però ha detto che come incassa più soldi dalle tasse, e li ha incassati, abbassa le tasse, un'altra spesa per il culo, Giannino l'ha sputtanato mille volte. col fiscalista, non hanno mai abbassato niente, dunque gli italiani, poi siamo stanchi di essere presi per il culo, vedrai quest'anno Grillo farà il culo, siamo di gente, molta gente, molti politici intendo. Qua o si arriva veramente a una rivoluzione, perché non si può, ci sono pensionati poverini che sono alla fame. Io l'altro giorno per poco, guarda, qui sono emotivo, per poco mi viene da piangere, sono andato al centro della Santa Maria e non sapevo che lì ci fosse la Caritas, pensavo che fosse un ufficio. Tutta questa gente in fila per andare a mangiare, ma dove cazzo stiamo andando? Allora posso? Sì, sì. Allora io passo ogni mattina, ti prendo ogni mattina. Quella mattina passa, quella che passa alle 6:10, 6:15, ti posso garantire alle 6:10, alle 6:15 dove c'è l'ex questura, lì c'è già la fila con la gente che sta aspettando, capito? Ma qui questo pezzo di stazza non funziona niente, cioè, faccio un esempio, cioè, perché voglio essere cattivo, perché le tasse le pago, non è quello il problema è che pago molte pure, capito? Perché per anche per altri motivi, forse se sai comunque, cosa succede? Succede questo, che mio padre e mia madre ci hanno fatto un culo della Madonna, all'epoca lavoravano tutti e due, perché ti spiego, mio padre a un certo punto si era sentito male e con la paura sai di rimanere quattro figli, così ha detto no, da domani vai anche tu, quindi hai messo a fare i concorsi, mamma che mamma è iniziata a lavorare solo per quel motivo. Mio padre ha iniziato dal basso, però piano ha fatto quello che ha fatto e quindi hanno creato anche qualcosa. Mio padre è molto giovane, è andato in pensione, se l'ha goduta un anno e meno, 8 mesi, e se n'è andato. Mamma è rimasta con la sua, poi è andata in pensione dopo 10 anni, anche a mamma è rimasta con la sua pensione, la parte della rivoluzione getta, ma credo che abbiamo dato alla società. E ci hanno fatto qualche cosa e quindi mamma adesso è pensionata, lui abita a Sant'Orso, ha una casa grande, tutto quello che vuoi, ma se l'hanno fatta con molti sacrifici, hanno comprato una casetta là, tutto fatto con molti sacrifici, una vita di lavoro, perché non parlavano del tipo come magari così si trava e gira, spendi locali, fai no, una vita di sacrifici economici per farsi queste case qua, di sacrifici al lavoro, perché lavorava tantissimo, un migliore responsabile, mamma poteva starsi a casa lavorando, fatto per la paura, tutto l'altro. Adesso io vedo mamma che non dice mai sui lati in terreno, vedete come è in difficoltà, perché questa casa è così grande, con quanto ha aumentato il gasolio per riscaldarla, con quanto ha aumentato quello, con quanto ha aumentato tutto, la vita è carissima, adesso io prendo le mie, adesso la crepano, cosa ha fatto di quell'io, io non lo so come cavolo farà, quindi vuol dire anche come fai ad accadersi, sono pensionato perché ha una casa più grande di un giovane di 40 anni, perché un giovane di 40 anni di magari ha comprato la casa da 100 metri quadri, prima ha comprato una casa da 250 metri quadri, magari si poteva fare se avevi lavorato un po' di più, oppure ti dico un altro che 30 anni, 40 anni fa non si comprava una casa di 110-120 metri quadri, le case cooperative erano di 100-120 metri quadri, l'operaio che lavorava alla fine adesso si comprava una casa di 120 metri quadri, il meccanico si comprava una casa di 120 quadri perché la prendeva in cooperativa e lavorava uno solo e poi dopo 15 anni che si era fatta l'altra si comprava la campagnetta per farsi il suo uso, le sue cose, oggi questa è andata in pensione, con un numero di pensione si devono tenere la casetta in campagna, la casa è di un lusso, un signore, c'è un ricco, adesso lo crepano con lui, cioè ti sembra giusto uno che ha sacrificato la sua vita e l'ha data alla società, molto adatto. Certo che no, non sembra, non è neanche giusto che debbano pagare tutte queste tasse, no? La casa non dovrebbe essere un bene, il patrimonio familiare impignorabile e intoccabile, né dai criteri né da nessuno. Se uno deve pagare qualcosa gliele fai pagare nella giusta maniera, senza tassi da strozzo da usura. È così, è vergognoso, lo so, ma si attaccano dopo alle case che sono delle cose fisse che puoi colpire al gasolio, alle pensioni, dove si attaccano? A fare quella manovra di merda ci mandavi un handicappato e ci andava e lo faceva. Però non ripeto, adesso non è stato in ascolto. Riprendi Salvatore. Ci vuole una rivoluzione fatta bene. Ci vuole buon senso, perché anche le rivoluzioni, se fatte senza senso, rischiano di fare ancora più danno. No, riflettevo sul fatto dei pensionati, di quelli che sono andati nelle case di cura, di pensionati, di classici pensionati, che per poter ricevere la corrispondenza e quant'altro avevano fatto il cambio di residenza presso il pensionato, e quindi oggi si ritrovano come seconda casa la loro casa originale, che quindi chiaramente hanno un IMU piena, senza l'abbattimento della prima casa. È una sberla allucinante, Sì, ma è assurdo, togliamo il caso che il pensionato, io credo che uno che abbia 60 anni, 65 anni, che in pensione, se permetti, che ha lavorato una vita, qualsiasi lavoro abbia fatto, se permetti, l'Italia l'ha fatta grande lui, questi politici li ha arricchiti lui, questa classe dirigente, ladri, ladroni, che ormai fanno i soldi non più col lavoro, perché prima il lavoro uno dice vabbè mi piace un'azienda, una tendina, ecco faccio scarpe, domani ne faccio due operai, poi hanno fatto tutti così e poi si piazza la fabbrica e tutti i soldi non si fanno più così, si fanno se conosci l'amico dell'amico che prendi l'appalto tuo lavoro, perché quello ti al poveraccio che se lo fa due lire, e soprattutto con le rendite finanziarie, quindi voglio dire, il pensionato che ha dato una vita, come fai a distruggerlo? Io ti dico vero, io sto parlando sì, ma quanti anni fa io sono a casa giù a Platano, non ho visto, non riuscivi a trovare una casa in vendita, passava la gente a chiedere ma sta vendendo, no? Quando c'era la bolla immobiliare. Oggi tu non fai altro vedere cartelli vendisi, perché? Perché lui la giugno è stato fatto forse circa 30 anni fa. Cosa succedeva? Il povero Cristo lavoratore, parliamo lavoratore, il povero Cristo che lavorava col suo stipendio, facendo, perché prima non è che si sciacquava come oggi, facendo sacrifici, dopo 20 anni di sacrifici si aveva pagato l'appartamento e diceva vabbè invece di comprare la campagnetta si compravano queste case al mare, così sono diventati anche prezzi assurdi, prendeva mano si comprava la casetta e avevano qui pensionato, adesso mi sono in pensione e c'è una casettina, la casa dove vivo, una casettina a Platamona che sono niente di particolare, cioè non ce la fanno più perché sono lì, devi pagare, chissà che sono ricci perché quando una seconda casa non li fanno pagare e paghi 1.100-1.200 euro di condominio, luce, acqua, puttanate, appena un pensionato che prima riusciva sino a qualche anno fa, io li vedevo, erano tutti pensionati che giravano, stavano 3 mesi lì, questa gente se la sta vendendo perché non ci riesce a mantenerla, cioè ma ti serve una cosa giusta questa, uno che ha lavorato una vita, che dopo ha lavorato una vita, che si è stabilizzata facendo sacrifici, perché sino a 4-5 anni fa non c'era problema, perché c'è gente magari che 10 anni in pensione, lui mi vede, riuscivano a farlo tranquillamente, oggi cazzo c'è, si trovano a vecchiaia a doversi vendere quello che ci hanno fatto in una vita, aspettando magari che andassero in pensione per godersi quel pezzo di casa, vengono a vendere perché non se la possono più permettere, ma ti sembra giusto? Non c'è niente di giusto in Italia. È da ammazzarli. Perché non è il paradosso peggiore, non è solo quello, Fabri, è che se tu non la vendi, perché non è facile, perché il mercato immobiliare è fermo, perché la crisi è devastante dappertutto, e dunque sono tutti, non tutti, ma la maggior parte hanno questi problemi, a parte gli speculatori, cosa succede? Che non paghi l'IMU 1.000 euro, dico una cifra ipotetica, e Liquitalia con l'efficientrate te la manda il prossimo anno con 2.000 euro circa. Non la paghi perché non ce l'hai fatta a pagarne 1.000 e non ce la fai a pagare 2.000, se non la ratizzi, e ti si raddoppia di nuovo. Insomma, in sostanza, alla fine della fiera, se non stai attento, ti portano via perché la casa, perché non hai pagato l'IMU, e ti sale le multe alle stelle, come è successo anche a me, solo che come si sono attaccati alla bugia, per dire. Però il concetto è quello lì, no? Sono dei bastardi patentati, è una casta. Tu guarda in America, Cameron adesso, no? Prima di lui chi c'era? Tony Blair, mica sono politici che durano, fanno una legislatura, sono lì un periodo, poi spariscono, Thatcher o in Germania, mica ci sono sempre, qui ci sono da 40 anni, da Andreotti, c'è gente da sempre gli stessi, sempre la stessa cadrega, bella incollata. Capito, dunque è con stipendi troppo alti, c'è Dini che prende 48.000 euro di pensione al mese, lo vedi queste cose e senti dall'altra parte il pensionato che è arrivato ad avere la casetta al mare, il pezzettino di campagna per andare a farsi la seminata con gli amici, a godersi la vecchiaia, e la casa non riesce ad andare avanti, c'è da prendere e fare una rivoluzione veramente. Io sarei il primo in prima fila. Ti con Grillo. Sì, allora, io lo voterò quest'anno. Neanche io le ultime non ci sono andato, avevo deciso di andarci più a votare, tu dici non è giusto, tanto fanno ammazzatevi, fate quel cazzo che volete, io ho detto non me ne frega come volete, mi dovete ammazzare, se anche non mi rompo i coglioni, scusando l'espressione, ma alla fine anche io esco di testa. E allora che cosa ho fatto? Anche io ho detto se sei Grillo, che sia giusto, sbagliato, io con i Grillo sono ragazzi giovani, io li voto, sempre meglio di questi, e come per dire ci sono due ladri, e uno che non lo conosci, un altro quello che non conosco, tanto cazzo, quello rubano sicuro, quello gruppo, là se vediamo. Fai bene, tanto tu la cacca, la giri, sempre cacca rimane, quindi dobbiamo fare un altro. E se quel partito prende il 51%, sono cazzi quella gente lì. Sì, stanno tenendo questo. Io lo voto alla grande, ma ha detto delle cose, non ha un bel programma, ben definito, ma almeno tra buffoni, quello è quello che mi è più simpatico. Lo vediamo. Speriamo bene. Speriamo che cambi veramente qualcosa, perché voi penso che ti date lo stesso, io ripeto, io torno a battere dove vado più spesso, dove ho la seconda residenza. Sei andato Fabri, che non ha fame, veniva dal comunismo e con il risparmio, però non avevano gli stipendi di 100 euro. Vai oggi, sai quante macchine ci sono in giro a Bratislava di Hammer, Bentley, Ferrari? Pensabile prima, molte sono italiane, tipo la mia, molte sono italiane perché molte vanno, ma molte sono slovacche perché li conosco di persone. E non hanno di certo il problema di prelevare 100 o 500 euro che ti danno a fare il controllo. Un'aziendina piccola come la mia che fa trasporto su un litro di gasolio ci sono un euro e qualcosa di accisa. Il prezzo al barile è sceso a 76,80 ieri mi pare, ed era a 110 da poco, non è sceso di un centesimo il gasolio. Io capisco i due centesimi per l'Emilia Romagna, dirai, ma è sceso quasi di 22 euro, quanto è? Di più, quasi 30 euro, 34 euro è sceso. 24 o 34 sotto con commento, comunque è sceso moltissimo il barile, ma la pompa è sempre uguale, un'altra cosa che è vergognosa, sempre lì. Il problema è da quella che giù come ci tu, ci stanno parlando 50 cose, ci sono guerre, si sta parlando con la guerra, penso un po'. Non si sono parlato di 50 cose, perché cos'è? Terremoto di Spigna, c'è ancora la guerra in Abissina, mi sbaglio, diciamo che se li stanno mangiando 50 cose, allora c'è la rotta del valle, adesso basta, allora sarebbe il momento di dire basta, tu li senti parlare, i discorsi sono sempre i soliti, bisogna rinnovare la politica perché questo disinamore, questa antipolitica e demagogia, queste cose qui che bisogna, sì ho capito, bisogna rinnovare. Andate bene a casa, che ci siete 20 anni quelli che ci sono di meno, di Pietro che sta sempre lì a dire, cazzo gioco due, gira due, fatene a casa, perché tu ci sei 20 anni lì, devi andare a casa, tu e tutti i tuoi amici, l'unico, che cazzo di lui, cioè prima hanno il cancro, quello è il cancro dell'Italia, adesso che ci vanno, ti senti, hanno tutti la ricetta, sono tutti medici con tutti la ricetta per la guarigione. Dice, ma se c'è tanto che ricetta c'è, è stato in 20 anni, e cazzo fatto quello, hai fatto una ricetta, non vuoi dire, cioè più mi fa fallire l'azienda, e poi mi vuoi dire come salvarla, ma allora si scemo in testa, ma io le cose con la mangiato, battate, mi ricordo il crocevo di Bussi, cazzo la Madonna, Roma la Madonna, cazzo guarda i ladri in famiglia, e lui non sa per fare niente, cazzo c'è ancora gente, scema, e Bussi, cazzo la mia poteva anche piacere seguire, ma dopo ho detto quelle cose, dico cazzo ci ho rubato più degli altri, ma sono così scema a credere che cazzo non sapeva che i figli rubavano, cioè perché i figli andavano a prendere la paletta di 5.000 euro, gli davano la paletta senza chiedere al padre, ma la gente è proprio scema, capito? Stavo seguendo poc'anzi, no? Hanno portato contrario all'arresto per un deputato che faceva le cose, no? Per poterlo far arrestare, no? Hanno votato adesso per non farlo arrestare. Penso un po' che cosa abbiamo votato. Sì, ma tu lo sai perché hanno votato quello, a parte di questo scemo che hanno votato contro. tantissimi, i miei attestano, io canto, perché siccome se cantava sputava il 90% di quella gente, allora hanno votato per quello, ma non so se l'ho fatto solo due, allora poi lo picchia, dove se l'ho detto in prima pagina, cazzo, cioè contro tutto questo, no, hanno dato una notizia, né filmato né niente, è passato a metà telegiornale, due secondi, la commissione contro il Consiglio di Unità, cambiato subito notizia. Ma questa cosa è quella, secondo me, è cazzo, siamo in dittatura, cazzo, cosa c'è giornalismo? Quello è giornalismo, quella è una cosa per il culo, capito? Qui siamo, diciamo, alle mille della terza guerra mondiale, le prime le guerre si combattevano, scusate un attimino, con le armi, per che cosa? Per portarti via le proprietà di uno Stato e fare pagare alla gente, cazzo, li chiamavano così i danni di guerra, no? Quindi dopo tu pagavi perché cazzo avevi perso. Oggi cazzo lo stanno facendo senza armi, ma lo stanno facendo in maniera diversa, perché nel momento che tu ti stanno, hai una tassazione con quella che ti stanno mettendo, ti stanno sempre aumentando le tasse, adesso costringeranno lo Stato per vendere tutte le proprietà, perché le proprietà di tanto le abbiamo comprate con i nostri soldi, acqua e rotta, centrali elettriche, ospedali, strutture, infrastrutture, autostrade, tutto quello che ci abbiamo comprato, e tu piano piano lo stiamo vendendo perché dobbiamo pagare il debito, quindi ci danno le banche, quindi ci troveremo a un certo punto di non possedere più niente, dover pagare un pacco di tasse e dover pagare ogni servizio. È quello che ti succede dopo una guerra, quando perdi. Ecco, però te la stanno facendo senza armi, capito? Questo qui è quello che sta succedendo, perché non siamo più uno Stato sovrano, non puoi stampare moneta, quindi non sei più uno Stato sovrano, devi andare a comprare i soldi che ti servono per un'opera pubblica, per pagare qualsiasi cosa, devi andare a comprarli, li compri, ma la miscela da 1% e tu vai alle banche, con cui te ne paghi al 100%, hai capito? Io invece, come fanno gli Stati Uniti, quando sono stati distrutti tutti i casini, in Giappone, visto cosa è successo, niente, hanno stampato moneta, hanno invece lui che hanno aumentato il debito pubblico, e beh, nessuno però gli può andare a fare speculazioni, e infatti hanno sempre il tasso di interesse sempre bassissimo, anche se l'hanno di un doppio di noi come tasso di interesse, come te lo spieghi? Una relazione, perché sono dei bisogni che sono madre, purtroppo è così, è tutta una cassa che piano piano, come tu, e noi stiamo facendo quello al povero, perché sono al povero quando i soldi, come tu, di tutte le case che ho fatto con 50 euro al volo sacrificato, quindi per la pensione, e che si spegne dopo la guerra piano piano, perché stiamo già tutto il tuo risparmio, e questa è la realtà, però come tutti, molta gente ci crede ancora, sì, la piazza repubblica, bisogna rinnovare la politica, se però. Guarda, l'altro giorno stavo vedendo, non so se avete visto Barnard, quello che ha dato del delinquente, con più che delinquente, ancora più pesantemente, non mi ricordo a Monti, gli ha dato dei criminali, gli ha dato. Questo hanno fatto, sono tutte cose che io bene o male avevo lei bene o male, perché poi il televisore la verità ne guarda poco e niente, hanno fatto tutta una mia idea, mi hanno fatto le mie cose, hanno fatto un summit a Rimini, mi sembra i primi di quest'anno, e ha invitato tutti i maggiori economisti mondiali, francesi, americani, un po' di tutti, alcuni primi Nobel, gente che hanno guidato aziende, quindi non c'è più. Ha iniziato a spiegare, era un po' noioso perché poi sembra 8 ore, 16 ore, quindi l'ho guardato le prime ore, poi piano piano, quindi eccetera, eccetera. Ma non è che diceva niente di nuovo, però comunque hanno riassunto il tutto, quindi partivano da prima della seconda guerra mondiale, dai progetti che ci sono, spiegando tutta quella storia lì, sono partiti da lontano, hanno riassunto tutto, è una cosa impressionante, perché tutte cose che uno si fa di nessuno leggendo, facciamo, ma poi quando te le riassumono tutti, fanno tutti i collegamenti, ma non ci picco, parliamo di economisti a livello di fama mondiale, prima, è una cosa assurda. Alla fine la conclusione è che non usciamo più, è che non usciamo più se rimane così, capito? Infatti la Fed italiana, poi si vive tecnicamente fallito, non cresce, recessione, mette sempre a tasse, e dal 2002 adesso il potere d'acquisto di un normale stipendio scende del 40%, quindi questi sono i dati che contano, non tutte le piazzate che dicono con la mano agli inquinanti, e loro continuano a incrementarsi i soldi, e purtroppo qui ci vuole una persona che prende il 50% dei voti e potrebbe aumentarli da noi a domani, quindi tutte le cose che sono messe in 40 anni. Ehi, non basta una persona, basta. Lo fanno fuori. Non basta, servirebbe un gruppo e neanche risicato. Servirebbe un gruppo molto, ma molto numeroso, perché tu devi considerare che hai tutti gli apparati di Stato, che non sono solo politica, ma stiamo parlando anche di tutte quante, dalle forze dell'ordine a quant'altro. Ci sono, ad esempio, leggevo una cosa che mi ha colpito, i generali che di volta in volta vanno, quindi stiamo parlando del corpo dell'arma, che vanno di volta in volta in pensione. Persone che costano e continuano a costare allo Stato l'ira di Dio, l'ira di Dio in termini pensionistici, e sono costi che non possiamo neanche più permetterci. Tutti gli amministratori delegati delle grandi società italiane che si pensava di realizzare come lo era stata quella che è diventata poi una tragedia, quella dell'Alitalia, delle indennità non ci possiamo permettere di pagare. Cioè c'era al tempo di Cimoli, Cimoli prendeva annualmente circa 2 milioni e 100 mila euro di indennità annua, praticamente prendeva il triplo rispetto all'amministratore delegato di British Airways e più del doppio di quello di Air France, ok? E con una società, l'Alitalia, che perdeva sistematicamente dai 160 ai 180 milioni al mese, per poi finirne così come ne è finita la storia. Ebbene, alla persona al quale poi lui stesso ha partecipato nella delibera finale, è stato dato un buono d'uscita calcolato su quelle che erano le sue retribuzioni annue, gli altri 6 milioni e 500 mila euro. Una valanga non rende l'idea, una valanga di soldi dati a persone che creavano semplicemente dei buchi, e questo è uno dei tanti casi. Uno dei tanti, cioè uno era così bravo nel creare danno all'azienda Italia che è stato premiato in una maniera smisurata. O se non considerate ad esempio l'atto contratti, sapete che la regione Sarda è una regione a statuto speciale. Beh, noi siamo l'unica regione d'Italia dove abbiamo fatto di tutto per poter continuare ad avere quella che è la quantificazione dell'incentivo della progettazione al 2,50%, quindi a prescindere dalla bontà del progetto, come andrà, come non andrà, eccetera eccetera, l'importante è quello di tirare fuori un progetto, e l'incentivo alla progettazione è quello il fine al quale si fa riferimento. Che poi il progetto vada in malora, che non serve a niente e che sia una valanga di denaro sprecato, quello poco importa. Tutta la marea di avete visto di servizi che hanno continuato ad essere con dovizia di particolari documentati da Striscia o da tante altre trasmissioni del genere, fanno espresso riferimento a periodi dell'ultimo decennio. ma ancora gli incentivi della progettazione erano bei saldi in quelle che erano diciamo le indennità aggiuntive che un professionista, pur essendo un impiegato pubblico, avrebbe percepito. Ha fatto passare semplicemente in secondo piano quello che era poi la data del progetto, se poi questo progetto sarebbe servito alla collettività e come attualmente sarebbe stato gestito. Se poi non veniva finito e rischiava di essere buttato, poco importa, perché c'era un eventuale progetto supplettivo per ripristinare eccetera eccetera, che avrebbe significato un'ulteriore percentuale come premio di produttività. È vero Salvatore, lo sto ascoltando e al 100% concordo di tutto, però la cosa che viene sempre in mente è che lo Stato siamo noi, siamo stati italiani, perché la maggior parte delle persone, almeno crediamo che la maggioranza ragioni come noi ragioniamo, non succede però il contrario, cioè che si prendono dei provvedimenti, che le cose siano più eque, perché siamo un popolo che ha delle tradizioni, siamo un popolo fantastico sotto l'inventiva, sotto l'aspetto professionale, come imprenditoria, come fabbriche, e stiamo facendo la fine di checco. Non si può, perché i nostri miglioramenti sono fuori, in America, in Germania e da altre parti, i nostri migliori progettisti, i nostri migliori ingegneri, c'è la fuga di cervelli, c'è di tutto. Dunque, siamo coscienti di questo, dobbiamo prendere dei provvedimenti, e se non riusciamo a prenderli andiamo veramente in default. E vedi, allora, paesi che io consideravo bombardati come russi e est, stanno invece avendo un tasso di crescita paurosa, andando avanti, stanno vivendo i nostri anni 70 della crescita. Era anche lì un giorno poi, come dicono qua però, ma lì non credo che arrivi poi tutta questa crisi, perché anche lì in un comune dove ci vogliono tre persone ce ne sono tre o due e mezza, non ce ne sono 26. Ci sono 50.000 forestali come ci sono solo in Sicilia, no? Da una regione una ragione qualsiasi, qua c'è anche quel problema. Comunque speriamo bene, il discorso è molto complesso ed è triste, il gasolio costa tantissimo, non si può andare avanti, paghi il gasolio, paghi il resto, e il gasolio sei già mezzo morto, euro di tasse, c'era ancora la tassa della guerra in Irpinia, come ricordava Rezzare Patrizio Pocanzi. La tassa per il Saion, per la riunione di Firenze e via dicendo, non trovano mai nelle assicurazioni, la vecchia tassa salute, la nostra spesa nelle assicurazioni, nelle polizze, infatti sono le più care del mondo, non solo per quello, non solo per i 50 euro più o meno mi pare che incida la tassa salute sulle polizze, e per tutto il ruba ruba che c'è loro, perché non si spiega che in Spagna con l'AXA una sera a Toledo paghi 150 euro all'anno e quando vieni in Italia ne devono pagare 1500, sempre con l'AXA, ecco, sempre con la stessa sera a Toledo. Non ci sono molti famosi in Italia, ce ne sono perché lo sappiamo, ma non è quello il motivo. Se poi vai a vedere le assicurazioni sono tutte delle banche e politici, sempre loro. Ti pigliano per il culo, il cartello in Italia è quello, non per il culo, continuano a dire che scendono e che se vai in classe di merito non paghi più, invece aumenta sempre continuamente. Io ho 3 anni che pago l'assicurazione in Slovacchia, sempre 190 euro pago, non mi è mai successo qua in Italia che ero in classe di merito e pagavo 2000 euro a scendere a 1900, a 2100, 2002, 2003. Ti si fa il sangue cattivo. Vi saluto, vi ringrazio la chiacchierata. Salvatore, ci sentiamo la prossima volta in 10 minuti se possibile. Fabrizio, se entro ogni tanto mi fa piacere, mi farà ancora più piacere sentirvi anche dall'altra parte, ma non ando mai la 27 perché io in 27 ci sono nato, nel 68, io ho ancora le QSL di quell'epoca. Saluto e un abbraccio a tutti, ciao. Perfetto, grazie a te Walter. Grazie a te, molto volentieri ci sentiamo oggi, tra l'altro sono riuscito a fare un QSO bellissimo con un nostro corrispondente a Trieste, caspita, bellissimo, è stato di un di un piacevole veramente unico come il questionario che abbiamo fatto stasera. Ringraziamo a te della chiacchierata, Walter, a risentirci alle prossime. Gianni, per i saluti, prego. Riprendimi per i saluti, tanto Gianni si è addormentato con il microfono in mano, che tutti è. Ok, ciao Walter, speriamo di cogliere questo augurio. Mi sentite, ha fatto piacere della chiacchierata, nelle prossime, dai, buon 144 quando lo farai. Io provo a rilanciare a Gianni, per vedere un attimino se ti saluta, mi sa tanto che ti sta sognando. Avanti Gianni. No, ci sono. Ciao Walter, di nuovo, ci ha fatto piacere sentirti, di nuovo quando vuoi siamo qua. Ciao, wow. Come ti conosco, anche ero che dormenti col microfono premuto. Dopo con la rete l'ho fatto anch'io, nel 76 mi pare, 74, parlavo con questa ragazza, Adelaide, me lo ricordo ancora, mi aveva fatto innamorare al baracchino, e sta, figurati, piccolissimo, c'era da morire, però alla fine crollavo. Crollavo e caso di stare in P3 quando eri a letto, si premi il tasto, che con 73 si accoltassi non ero infimo, pum, si castrava lì e iniziava a dormire, che a russare a volte, che sia non russo però. Allora, alle 3 di notte la telefonata dell'amico, sveglia suo figlio, che c'ha il microfono schiacciato, sta sempre russando. Arrivava babbo, porco, ma no, tattici. Erano i periodi dove quando avevi un po' di stazionari c'era impiccato al traliccio, piovendo la notte, aveva qualche problema al cavo, quello che poteva essere il problema. Adesso mi può scendere l'aria e arrivano lì dov'è. Aia, ci sentiamo. Ciao, buonanotte, bei tempi, io già sono un po' più giovane, bei tempi, ne ho conosciuti più o meno. Vabbè, buonanotte, dai, io faccio una chiamata, tanto che non è entrato Claudio, secondo me c'ha gli orecchi da porco, cacchio, non è possibile, e non è voluto entrare. Attenzione Claudio. Buonanotte, buonanotte, fratellino. Questo non è Claudio. E dove? Come sei tu? Positivo, sono io, qua discesa San Carlo, la parte mia, una buonasera a tutta la ruota. Buonasera a lui, come hai sentito, scusando il coso, io la faccio un po' di bianco, se ci siete tra 5 minuti, che vado a mangiarmi a prendermi due ciliegie. Dove sei? Adesso vicino a San Carlo. Sto scendendo, sì. Scappa, e allora è ai limiti della mia di ricezione già. Beh, tu sei l'altro. Sì, non lo sento più, tu già? No, più. Sento Domenico. No, ho sentato in bocca. Vediamo un pochettino se sento con l'altra antenna. Domenico, prova a fare un passaggio se ci senti. Oh, non lo so. No, non lo sento neanche con questa. Oh, iaia. Ai noi, e comunque ho già, per completare il discorso che stavamo facendo prima, c'è anche un certo senso di resa da parte delle persone che secondo me continuano in molti ancora a sottovalutare un fatto molto importante, che è quello che ci si deve rimboccare le maniche e lavorare seriamente. Quello senza ombra di dubbio. Tanto è vero che se mettono questa legge nuova sugli statali, che possono licenziare anche gli statali se fanno cose che non devono fare, io gliela pure. Ma anche lì. Il discorso del licenziamento sembra una cretinata. Perché? Te lo spiego subito. Perché già in tutti quanti i contratti è previsto che determinate irregolarità sono sanzionate sino ad arrivare a quella che è il licenziamento in tronco, capito? Esempio tipico, l'allontanamento fatto in maniera fraudolenta dal luogo di lavoro, così come tutti coloro che hanno cassato nelle varie ASL o in vari uffici che vengono, beggiano, fanno beggiare a qualcuno e poi se ne escono. Ecco, l'allontanamento è già un'infrazione contrattuale. A quell'infrazione poi seguite le diffide, i vari periodi di allontanamento dal lavoro culminano con il licenziamento in tronco. E quindi voglio dire, ci sono già queste norme che purtroppo, come in tutte le cose, bisogna trovare le persone referenti della persona accusata, che abbia il coraggio di mettere nero su bianco la propria firma per attivare la procedura poi finale del licenziamento o del richiamo sanzionatorio, cosa che pieni di dirigenti come siamo, vigliacchi e incapaci, è una cosa che non viene mai fatta. Ma se ci sono queste leggi qua, continuano a uscire a farsi la spesa, a timbrare, andare per dire a farsi come un acinolo, tutte queste cose qua che noi non possiamo fare. Perché non vengono sanzionati, ma sono già prescritti nei contratti, se te li vai a vedere, cioè il sito del CNEL, dove ci sono tutti quanti i contratti collettivi di lavoro, ok? Quelli pubblici e poi ci sono anche gli accordi aziendali, trovi di tutto. Ma ci sono, cioè l'allontanamento dal posto di lavoro non è una cosa che viene sanzionata con una tirata d'orecchie. C'è la sanzione, c'è prima la censura scritta, poi il reiteramento dell'infrazione comporta alla fine della lista il licenziamento. Non è che uno non può fare. Viene fatto, è visto quella persona che tra l'altro conosco che beggiava al mattino all'ASL col medico qui a Sassari, beggiava al mattino all'ASL, poi andava in quell'autoscuola di Castelsardo, di Valle d'Oria, dove era, faceva le visite per l'idoneità, è ritornata a fine mattinata all'ASL come se niente fosse. Quando l'hanno cassato, perché l'hanno cassato, è stato licenziato, cioè i procedimenti ci sono, esistono, è che non ci sono dirigenti capaci e seri che stanno a guardare con attenzione cosa fanno i propri sottoposti o i propri quadri di riferimento e non hanno il coraggio di far pesare il loro grado, per il quale tra l'altro sono pagati profumatamente, proprio perché devono fare un'opera di coordinamento. È un effetto domino, se già la punta è debole, poi tutto il resto ne paga le conseguenze. E quindi ecco che trovi questi casi che sembrano clamorosi, ma nella realtà delle cose non è che sono degli intoccabili, sono delle persone che possono essere licenziate diretto, senza fargli toccare manco terra. Ma c'è un altro motivo anche, qualcosa bisognerebbe cambiarla, il dirigente che licenzia un dipendente pubblico per giusta causa, potrebbe anche essere che il giudice lo reintegra, perché può succedere magari è sbagliato, no? E dovrebbe secondo me avere un'assicurazione che copre questo, e se lo so deve pagare di tasca, allora ovviamente avendo paura non lo licenzia, che così il giudice lo reintegra e me lo pago di tasca, quindi per quella paura non applica la sanzione. E a un certo punto anche da capire in un'azienda privata se il direttore di un'azienda licenzia una persona, ovviamente non lo licenzia perché parla col dirigente superiore, fanno un progetto che questo ha fatto questo, mandalo via. Se lo dovessero riassumere, reintegrare il giudice, di certo non parla il dirigente. E aspetta Fabri, aspetta. Stiamo parlando di due fattispecie diverse, sono vicine ma sono diverse. Un conto è quello che è l'eventuale errore che uno fa nello svolgimento della propria mansione, ok? Solitamente dai livelli di quadro in su poi ci sono appunto delle assicurazioni che contrattualmente sono già stabilite che debbano essere fatte per queste persone proprio per coprire il rischio professionale. Ma qui stiamo parlando di applicazione di norme contrattuali, quindi non è una sensazione, non stiamo parlando di sensazioni, stiamo parlando articolo preciso, nel nostro caso nel nostro contratto sembra che sia dal 54 in poi, allontanamento immotivato dal luogo di lavoro. L'allontanamento motivato dal luogo di lavoro prevede l'avvio dei procedimenti disciplinari e c'è tutta quanta un percorso, ci sono le lettere, ci sono le controdeduzioni, c'è il tavolo di conciliazione, la convocazione all'ispettorato provinciale del lavoro e così via. C'è tutta un percorso da seguire, ma alla fine se la persona in questo percorso non è riuscita a dimostrare il contrario, d'altronde se il datore di lavoro sta portando avanti o la pubblica amministrazione lo sta portando avanti è perché ha un qualche cosa di serio in mano, c'è poco da fare, le possibilità del licenziamento ci sono tutte, sì, che non si ha il coraggio di farle, di portarle avanti queste cose. Quello è anche vero, anche perché queste persone sono messe politicamente. Esatto, cioè si fanno mille ragionamenti, ma cosa lo stai a fare perché quello è cugino di, è nipote di, eccetera, eccetera. Con questo ragionamento si tende anche a giustificare il fatto che tu, pur essendo pagato e stipendiato per prenderti quella responsabilità che il tuo grado ti ha affibbiato, trovi mille giustificazioni per non farlo tu stesso e quindi tu dirigente inizi a fare questo e il tuo sottoposto ne giova e si comporta di conseguenza, tu hai un effetto domino in cascata per cui alla fine tu hai l'impiegato l'applicato per intenderci di base che è a Pascolo Bravo. Già lo so, è un casino, non ci puoi fare niente secondo me, siamo a livelli in Italia, siamo a livelli di, diciamo, vicini, tutto lui siamo a livelli in Italia, veramente non lo so, io l'ho sempre detto se avessi avuto 10 anni in meno, quindi non avessi avuto figli, niente, avrei venduto tutto, avrei accumulato un bel gruzzoletto, incentivi, tutto quello che è messo, è andato fuori dall'Italia, via. Tranquillo che l'avrei fatta, che ho due bambini e mi viene male, capito? Ma se non avessi avuto legami, guarda anche anche adesso io 43, me ne sarei andato via, non ti preoccupare. Sentiamo, buonanotte a tutti, ci sentiamo. Ciao Salvatore, ciao Fabrizio, ciao a tutti gli ascoltoni che ci sono in rotta. Buonanotte a tutti. Bellissimo causa pupille, già è la prima volta che lo sento, bellissimo. Carico pupille. Via, carico pupille, ragione. Bellissimo. Ciao Doppio, ciao. E Domenico, ci sta sentendo? Sì. Positivo, arrivato, scavalcato nel mucchio, ufficio delle entrate, con la buonasera a tutti. E ma ti rivai e metti giù qualcosa. Ciao Dome, buonanotte anche a me. Ciao Salvatore, hai sentito la passata? Oh, carissimo, mi fa piacere risentirti. Cos'è, il primo viaggio? Positivo, adesso parcheggiamo questo, prendiamo la ruota, ripartiamo. Mamma mia, gatto, mamma mia, è per fare un esempio, ma veramente, come si suol dire, sgarrarsi la canna per lavorare, guarda, tanto di cappello dove. Lo so, ma se ci manca questo è un casino, là. È un casino, capisco tutto io, tutto. Però è la prima cosa. Quello là ha detto non vivete per lavorare. No, non vivete lavorando vivendo. Vivete per lavorare, qua bisogna lavorare per vivere. Eh sì, assolutamente sì. Anni prima che chiuda ti saluto, un abbraccio e buonanotte e buon carico pupille. Hai ragione Domè, hai ragione. Quello che l'altro giorno c'era una discussione con colleghi, no? Perché io sostenevo e continuo a sostenere un determinato discorso, quello che comunque prima di aspettare che qualcuno venga a risolverti i tuoi problemi, già devi iniziare ad essere tu dato e capace di cercare di brogliarti, che non ti devi far coinvolgere da un andazzo eventuale generale di menefreghismo e di lassismo nello svolgimento del proprio lavoro quotidiano, perché se no, altrimenti se tutti facessero veramente tutto quello che fa il compagno preso come riferimento, che è il lavativo per eccellenza, allora nessuno farebbe più niente. A questo qua dicevo io, ma è possibile, tu sei fare niente, non ti stai sbattendo per cercare di dare una mano d'aiuto ai tuoi colleghi e ti continui a lamentare del fatto che qualcuno deve venire per dirti cosa devi fare e ti fai vedere bellamente che vai avanti e indietro nei corridoi con le mani in tasca. Non si è mai visto, almeno per rispetto degli altri, statene nella tua stanza, farti vedere così. Positivo, quello lì ti do ragione, purtroppo ci sono in ogni azienda, quello lì, in ogni azienda, e sempre noi sono i migliori, tu che ti fai il culo, che risolvi tanti problemi, non sei mai ringraziato. E lo so, però... vedi, c'è sempre comunque un però, come che le cose vanno bene, poi fino a che vanno bene. Chi è abituato comunque a lavorare, a sudare, a darsi da fare, a cercare di dare una risposta a determinati problemi che gli si sbattono incontro, ha meno difficoltà a cercare di affrontare un nuovo problema rispetto a colui che è talmente avvitta, abituato a non fare nulla, che anche alla prima eclissi di luna si terrorizza perché pensa che sia finito il mondo. Non so, a me sono pessimista, ero abbastanza realista, come me pendevo verso l'ottimismo, ormai sto diventando pessimista, credo che non ci sia più via di uscita, l'unica via di uscita mi sa tanto sarà che andiamo in default e via. Ecco, ho letto oggi proprio che vogliono bloccare anche i soldi del conto, sto così, se quella è proprio l'ultima che potrebbero fare. Ti ringrazio. faccio quello che voglio. Se mi dichiaro di scrivere quello che voglio scrivi, a puttane mi devo spendere. Non si qua, a puttane. Posso spendermi lì i soldi, a puttane, li devo regalare, li devo tirare in aria. Per metterci fuoco, segna. Mi è arrivata la lettera alla finanza. Perché lì non ho dato giustificazione, mi ha chiamato la finanza. La finanza si dice la stessa cosa, io volevo venire a fare i miei soldi a tutti perché non li volevo tenere in mano, ma li volevo mangiare, li volevo, non devo dare nessuna spiegazione, ho detto. Non lo so se c'è lei che devi dare spiegazioni, capito? Non lo so, non mi sono voluto puntare, mi sono detto perché le questioni saltare una cosa che c'avevo e basta, che ho detto, però... Non i coglioni che devi giustificare quello che comprarti una cosa che è un hobby, un esempio. Io per esempio potevo comprare anche un baracchino per cazzi miei, non devo far saperlo a nessuno, o un gommone. Perché devo giustificare che io ho questo, mi sono comprato questo? No, adesso lo sta diventando, parliamo di grosse cifre, lo sai anche capire, no? Perché magari li vuoi trasportare, ma parliamo di piccole cifre, ma che cazzo vuoi? Dai che mi apporto il cielo, vedo ma se ci siete dopo, dai. Perché credo che abbiano disposizioni serie su un controllo dei flussi finanziari superiori ai 3.000. Coglione, te. 3.000 euro, mamma mia. Sì, infatti se tu fai un po' di mente locale, il discorso anche dei trasferimenti tra carte prepagate eccetera eccetera, il tetto stanno andando piano piano ad abbassarlo. Beh, quello sì, ma ascolta, ma io quando ho cambiato la macchina, quello sarà nemmeno un anno, nemmeno un anno. Cazzo, ho preso l'assegno, non gli ho detto nemmeno un cazzo, non ho chiesto niente, sono andato, ho fatto l'assegno circolare e sono andato via. Dopo un po' che sono andato, se tu mi hai detto ma qui sono le tante cose, te ne frega, non è per capire, no, comunque stavo aprendo un altro conto, capito? Non ti preoccupare, non mi sono serviti per aprire un altro conto, quando mi servono te lo dico, e non ti preoccupare, ti dico che forse lo devo aprire perché mi danno molto di più, ma te lo dico perché mi viene anche gusto a dirti in faccia, capito? Giusto che sei così sincera, devi però aspettare che devo cambiare la mia macchina. Però non me l'ho chiesto niente a me. E cappa. No, a me questo discorso me l'hanno fatto, me lo stavano facendo alla fine dell'anno. La fine dell'anno, quando sono andato a cambiare la mia, a rinnovare la mia carta prepagata. Stavano dicendo che siccome il ministero stava appunto valutando una nuova regolamentazione dei flussi verso nei sistemi elettronici, quindi tra anche carte prepagate e quant'altro, ad esempio la carta che dovevano dare a me doveva rientrare entro il flusso, mi sembra, di 2.000 euro, perché poi mi stava appunto accennando quel discorso che dai 3.000 in su devono essere comunque corredate di causali e quant'altro. Comunque non sono stato ad approfondire più di tanto, perché tanto a me era sufficiente averla per i piccoli acquisti che faccio su internet, quindi non sono stato tanto lì a chiedere ulteriori delucidazioni. Le ho chieste successivamente, infatti ho tra l'altro comprato anche la radio. L'unica cosa che vedi, una cosa, non so se fosse vera la giustificazione, però quando ho comprato ad esempio la radio e ho fatto il bonifico a quel radioamatore, mi ha chiamato la banca perché mi ha detto che il sistema aveva sollevato un'eccezione di allerta è perché, perché io nella dicitura avevo scritto FD1000MT Marco V, che per un profano non voleva dire niente. Il sistema la doveva aver letta come una stringa di un eventuale tentativo di frode bancaria, e allora mi hanno telefonato per chiedermi se effettivamente io stavo dando il consenso per questo bonifico, che tra l'altro era per una banca di quelle online, banca, non mi ricordo neanche il nome, comunque era una banca online. Ho capito, ma non è possibile, stai mettendo una cosa assurda, se uno non possa gestire i propri soldi come cavolo vuole. Vabbè, fammi la rintracciabilità, che è giusto, però nel momento che metto un assegno, prendevo i soldi, se c'è la, non mi devi controllare, cioè se tu se c'è la tracciabilità che dice che non si possono comprare oggetti eccetera, che cosa ho più di tutto per forza di pagare, ok, basta, le cose che mi servono per i fatti miei, per comprare le caramelle, capito? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, comunque l'idea, tra l'altro comunque ammessa pubblicamente, è quella di cercare il più possibile di controllare quelli che sono flussi di denaro, e per fare questo farlo con le modalità elettroniche. Considera che è stato anche questo uno dei motivi per cui, ad esempio, quando hanno detto che i pagamenti superiori ai 1000 euro non potevano essere fatti in contanti da nessuna parte, i quattro casinò italiani sono saltati subito sugli scudi, perché tu considera un casino di gente che va con denaro cash, del quale molto probabilmente spesso la provenienza non è proprio cristallina, è chiaro che facendo i trasferimenti anche sui conti giocatori da conti elettronici la tracciabilità è ben diversa. Sì, vabbè, quello sì, ma su alcune cose sono anche d'accordo, ma non proprio di tanto, capito? Non esageriamo, che te deve controllare anche chi preleva 2000 euro. Sta diventando una cosa impressionante, non so dove vogliono arrivare, capito? Vanno a controllare chi veramente vale. Sì, e poi comunque ritorniamo sempre al punto di partenza, che a nulla vale cervellarti per riuscire a controllare 1000 persone che hanno un flusso di denaro di un tetto di 2000 euro e non riesci a controllare i flussi di denaro di 50 o 100 milioni di euro di una sola persona, che casomai hai motivi molto più validi per tenerla sotto controllo. Sì, ma infatti, ma se vogliono controllare, già lo sanno loro dove andare a controllare, non ti preoccupare, è che non vogliono controllare. E anche ritorniamo al discorso dei contratti, anche lì ci sono sicuramente le pressioni delle lubi, che ovviamente si fanno sentire. Le quali la migliore secondo me è quella che continua a fare le cose nella maniera più spudorata, è quella dei farmacisti, cioè quando io mi ricordo sempre questa intervista a questo farmacista nel periodo quando stavano parlando dell'eventuale controllo e rivisitazione dei limiti, no, eccetera eccetera, con la finanziaria precedente, che diceva così non si può più andare avanti, non ci sono più margini di guadagno. Come viene tanto, insomma, di guadagno? Te li immagini? Non ci sono più margini di guadagno. Per carità, margini di guadagno. Eppure ognuno deve conoscere la sua categoria, perché molte volte anche loro ho sentito che comunque soldi in anticipo, no? Assolutamente sì, ma grazie a Dio sono nelle condizioni di avere un bello scoperto, perché comunque come stessero facendo proprio a acquisti su titoli sicuri, diciamo, mettiamola così, acquisti su titoli sicuri. Lo so, però guarda, sei andato tutto impossibile, non ti preoccupare, che succede qualcosa di grosso, perché la gente non è più. I migliori sono stati gli affari che hanno fatto le banche americane con l'entrata in a Wall Street dei titoli di Facebook. L'hai seguita quella storia? Sì, ogni su saga. Capito, hanno fatto le vendite allo scoperto, no? Hanno fatto gli acquisti allo scoperto, per cui a tutti quanti gli acquirenti di cui avevano preso la lista hanno detto ok, va bene, allora li compreremo, ve li vendiamo a, che ne so, a 38, quanto diavolo era, no? A 40, boh. Hanno aspettato una settimana e li hanno acquistati, se erano a 38, ma è come che li hanno presi a 30, e quindi a quelli cacchio li hanno venduti a 38 e ci hanno fatto uno sgobo allucinante. Assurdo, è tutto un atto, è tutto un atto, come ti giri in cappetta. E adesso c'era Zuckerberg, stava pensando, probabilmente lo sta facendo per cercare di ritirarlo su il titolo, ma la quotazione eccessiva comunque era stata da molti denunciata, perché in fin dei conti comunque sta parlando di una cosa molto, ma molto impalpabile, aleatoria, cioè stiamo parlando di Facebook, niente di concreto, di uno strumento, quindi non di chissà che. Tanto è vero che proprio perché il ritorno economico che pensavano di avere non l'hanno avuto, una grossa società, adesso non ricordo se era una società di AU, una società di compra, adesso non mi ricordo, gli ha ritirato il contratto di pubblicità a quelli di Facebook. Adesso quanto sono contatti? Credo che siano a 28 forse. Forse 28, e comunque è sceso tantissimo. Sto gonfiato dall'inizio come lancio. Ma qui hanno fatto i calcoli per bene le banche, infatti ci sono state alcune società di alcune sim che hanno rimborsato alcune quote per diminuire quello che è stato comunque alla fine il danno economico che hanno subito gli acquirenti delle azioni, perché cioè uno aveva promesso di comprarne, che ne so, 100 a 45, confidando che come minimo sarebbero rimaste almeno a 45 o nella migliore delle ipotesi aumentate a 46 a 47, e si sono viste invece che sono crollate nel giro di due giorni immediatamente. È chiaro che si sono coloro che hanno investito milioni di dollari si sono sentiti letteralmente truffati, e allora alcune sim sono ricorsi ai ripari e comunque hanno contattato i più grossi investitori per dargli comunque un rimborso parziale della grossa carenza che si era venuta a creare nei primi giorni. Comunque, cioè, è un mamma mia, dove ti giri, è una truffa una dietro l'altra. E avevo letto qualcosa di questo, sì, che mi occupo della truffa per il rimborso, ma ci sono un sacco di cause anche. Il fatto è che continua ad essere consentita la vendita allo scoperto e gli acquisti, cui quelli con la promessa di vendita a 45, secondo me, metti che fosse 45, adesso non mi ricordo esattamente le quotazioni, secondo me le banche lo sapevano benissimo che il titolo sarebbe sceso di un bel po', e hanno appunto aspettato che scendesse prima di acquistarle per poi rivenderle comunque al prezzo concordato all'inizio con agli investitori, e sono rimasti intanto i primi chiappettati. Però probabilmente non avevano valutato il fatto che sarebbe sceso così tanto, perché si era deprezzato di un 20%. Assurdo. Ma ci siamo arrivati a te? Era l'amico Domenico che si stava rilassando un attimino, poi entrava anche lui, credo di aver capito. Hai visto che è mezzanotte? Cacchio, no, non ho visto. Mi sa che ce ne andiamo a dormire. Domani mi metto un'altra bella giornata. Sto portando avanti un bel progetto a proposito di tasse. È come costruire un flusso per dei ruoli. Io domani andrò a fare un po' di... un po' che ci riesco a recuperare un po' di soldi invece di tasse, prof, che hanno fatto pagare. Adesso sono stato a Quitalia, non da Quitalia, le cose delle entrate, gente delle entrate, e mi hanno dato delle informative, no, assolutamente, lei si inchiede, il contratto, ma se c'è una sentenza del giudice, no, lei deve pagare, ma di lei non paghi, qui ci sono le commissioni, però noi dobbiamo dire così per la nostra città e l'altra. Mi scusi, ma c'è per lei nella dichiarazione, alla pagina 18 dell'istruzione c'è scritto esattamente che chi dice che non deve pagare, anzi deve chiedere il rimborso. No, sì, guardi, infatti faccia quello che crede, però noi abbiamo questa circolare e così dobbiamo dire. C'è lo Stato che dice che ti deve per forza rubare, capito? Sono dei ladri, sono dei ladri. Oh, comunque bisogna sempre ricordarsi che anche loro viaggiano a con paraocchi, spesso ci si dimentica, in ogni caso, da parte del, diciamo, del contribuente, che discorso Equitalia, non l'agenzia delle entrate, che i ruoli vengono emessi da sempre da qualcuno, e quindi se questo qualcuno ha avuto un potere impositore e si è sbagliato, è a questo qualcuno che bisogna riferirsi. Molta gente non sa che gli interessi di mora non è Equitalia che li aggiunge, ma gli interessi di mora sono chiesti alla fonte da chi ha emesso la cartella. Quindi ad esempio una cartella di Unici o di Natascia Mondetta, e l'ha emessa il comune, che arriva con la mora, è perché quella mora è la chiesta del comune, la risposta del comune che venisse calcolata. Sì, quello sì, no, quello sì, ma l'assurdità è che ti stavano dando delle notizie completamente sballate, che pensava che apri le istruzioni della dichiarazione del reddito e c'è scritto cosa devi fare, capito, quello che si gira in base. Loro continuano a dire, ma noi abbiamo questa circolare, così dobbiamo dire. Capito? Una cosa vergognosa. Ho detto, vabbè, se devo chiudere un contratto, comunque lo chiudo, lo devo fare. Ho detto, lo deve fare, lo firmo 23, ok. Sono andato, il 24, sono andato lì, a due passi, a Equitalia, a pagarlo. Cazzo, vado ad entrare e squilla tutto. Io metto il borsello, vabbè, vado a mettere il borsello, come faccio una mia amata, poi lì c'è il telefono, il padre, vai tutto, vado a metterlo chiavi, e non c'era la chiave per chiudere, no? tutti quasi occupati, c'erano quelli liberi senza chiave, e ma guarda, ascoltiamo poi lì tutto, non so cosa dirle. Non può entrare lo stesso. E tu mi scusi, cosa devo fare? Cioè io devo entrare qua. Tutti a pieno di gente, c'è una cosa vergognosa, gente disperata. Cosa devo fare? Ho detto, come metto fuori, ti ho detto. Ho detto, non posso chiudere, cosa devo fare? Vada dentro, non so dove si faccia un tessino della sorta, otto un giro, autorizzazione anche per entrare a pagare, allora. Ma guarda, te li ho fatto, proprio così mi ho fatto, stavo aspettando, uscivo da una rupola tutta la mattina, ho detto, ma tu così, gli ho detto, guarda che lei è tutto scemo in testa, gli ho detto, ma proprio lei è tutto scemo in testa, gli ho detto. Ha capito, proprio scemo in testa, lei è questo cazzo di qui, mi ha guardato con il dire, ma vai a fanculo, che cazzo stai guardando? Ho girato in spalle, male, sono andato nella mia banca, 5 minuti l'ho pagato e gliel'ho portato, capito? Quindi se uscivo fuori. Dio, tu due schiaffi, pure due schiaffi, li avevo capisciuto sul giornale, ca. Oh Fabri, vedi il lato positivo della cosa. Lato positivo, quando è uscito fuori perché ho detto cazzo di incazzato un bel ma che era fanculo, tu andai a c'era fanculo, lui è qui d'aria. E non è cazzo di che sono spaventato, ho cazzo sei qui, apro la porta e esco fuori. Minchia cazzo, questo cazzo secondo me è cazzo questo, ma io che lo schiaffo magari mi accolterei adesso. Ha avuto paura, ho uscito, ha abbassato l'altro e tanto ha girato lo sguardo, come ne sono andato. Oh, se tu l'avessi fatto il giorno dopo, i tuoi figli avrebbero detto, oh, Mimì, che c'è papà sul giornale. E ce l'avevo visto più di una volta, anche in televisione e sul giornale, ma per altre cose buone, non per queste cose che... Non parli. Calma, calma. Te la teniamo a calma. Dove hai sentito? Io non ci vado anche agli uffici per quello, mando sempre mia moglie per quello, si preoccupa sempre lei. E io sono, c'ho un carattere troppo particolare, no, meglio niente. Beh, Salvatore, domenica sei di festa, così è. Campa. Sabato, non domenica, sabato sera. Ah, sabato sera, Allora, sono tutte quante, e vabbè, sarà una bella giornata, speriamo, dai. Ah, speriamo. Me lo auguro. È molto bomba. E io di intanto, buonasera a tutti. E potrei anche evitare di entrare. Insomma, faccio quarantino, così almeno te contento e non pagare le tasse di Equitalia. Tu sì che ti affuggi, non imbaghi, boh. E tu non imbaghi, no? No, io proprio non c'è niente, forse qualcuno l'ha capito, quindi sono tranquillo io. Non c'è un accidente. A me mi paga il comune, quindi sono tranquillo. Fai anche tu così. Certo, auguri. Io piglio 750 euro ogni mese dal comune. Chiamati Sanguisura. Perché voi ho visto la rete. Basta non dichiarare niente. Non c'ho casa, non c'ho niente, quindi sono ovunque in ogni luogo. Ovunque in ogni luogo. Guarda che quello è Gesù Cristo. Appunto. Per carità. Oh, l'avete mai sentito voi che trasmette negli 40 quello Francesco di quel radioamatore campano? Ehi, forse sì, cosa dice? Dimmi se quello che sempre che vuole sta sempre protestando. Cappa, quello se non ho capito male c'ha una pensioncina gli passa, no? Perché ha perso il lavoro di sussistenza. I 200 euro al mese e neanche e non paga tasse da 2 anni a questa parte che proprio non è neanche in condizione di pagarle. Cacchio, è una disperazione allucinante. Per carità, mamma, dai, mi vado a letto, vado a riposarmi sul divano che è mezzanotte. Beh, buonanotte Salvatore, buonanotte a tutti gli ascoltori, e a voi in particolare che ho già le orecchie di porco e non c'è tratto, e anche a Motto Pompa. Ma perché non vai a dormire, scusami, nel letto? No, io non riesco a dormire nel letto, ma devo andare sulla televisione, mi devo stordire di fronte alla televisione, poi mi viene il sonno, chiudo gli occhi, io mi addormento un'ora, mezz'ora, mi riapro, vedo e mi colpo. Salvato, se perché calava che al centro della camera da letto, capito? E quindi uscirla, quando per il televisore che camminava su, dice, va, già contro giocava a mettere il rombo. Carità, fa come fa un mio collega d'ufficio, non è possibile, io pensavo che fosse un caso patologico, ma uno su 50 miliardi di abitanti della Terra, invece sono 2. No, ma come faccio se io vado a letto adesso, anche se sono stanco, se vado a letto, mi colgo, chiudo gli occhi, a parte che non mi piace il letto, no? non mi piace dormire perché è tempo perso, quindi prima di andare a letto è tempo perso, ma a parte quello, io mi colico, chiudo gli occhi e un cazzo mi addormento. E per addormentarmi devo mettermi davanti alla televisione. Capito, Salvatore? Lui quando deve andare a fare il maniaco non va a letto, no? Perché non mi interessa un cazzo, va direttamente in campagna e ci mette la branda. E io, così io dimmi te, quello gonfiabile, arrangiati. A Fabrizio mi sa tanto che la prima volta che una donna gli ha detto di andare a letto gli ha tirato un blocchetto a faccia. Non mi piace andare a letto a fare un febbo che cacchierelle, mamma mia, io non ce la faccio, io adesso si può raccontare, io non ce la faccio, io a me cacchio andare a letto, cioè, se io per esempio mezzanotte, a parte che qui si fa una certa ora, quello che faccio, mi basso il sonno, infatti adesso mi prendo qui tutto una pastiglietta di melatonina, perché superata quell'ora critica, mi è superata, è difficile, e così mi simula il sonno praticamente la notte, anche se già notte adesso, ma mi colico un pochettino sul divano, vedere che c'è, mi stordisco. A mezzanotte hai bisogno di prendere una cosa che ti simuli la mezzanotte, ma tu sei matto. Quando fai turni, cioè io per esempio a mille alle 10 questa bianco qui se mi passa adesso, è passato, e passa il momento e si è fregato, capito? Potrei tranquillamente lavorare almeno sino alle 5 del mattino. Oh, Salvatore, io invece sono messo male forte. C'ho mamma, adesso a casa, è uscita all'ospedale, e era mettuto fino a mezz'ora fa. Ha dovuto fare la casa, figurati, quindi, tra una cosa e l'altra, da mangiare, cosa del genere, ho finito poco fa. Mezzanotte qualche cosa. Ah sì, dovete andare a votare alle 6 in punto, poi alle 7:20 a prendere il tram per andare al comune a lavorare. Poi da lì, andare in punti, ho fatto lavoro fino alle 6 di sera. Figurati come sono mangiati, a un abbraccio. E la miseria. No, io ad esempio oggi che mi sono particolarmente spremuto le meningi perché sto portando avanti un determinato progetto, alle 3 mi sono coricato e mi sono svegliato alle 5:15. Certo, alle 5:15, auguri. Vabbè, se continuo quello faccio alle 3 del mattino, che poi mi ci vuole un'altra ora sul divano per stordirmi. Buonanotte. Ascolta una cosa, una cura giusta per l'aumentante, poi pigliati un pochettino di quel vino buono, tenti di fargli i bicchieri, c'è uno che ti fa dormire, tranquillo, come il coso. E poi ti svegli bello rilassato, che voglia anche di fare il ciucuccio addirittura, dice, tua moglie, io non c'è niente da fare, facciamo qualche altro figlio in più, tanto già parlo rilassato, lo rovina tutti. Tutto, grazie della chiacchierata, ci sentiamo domani. No, adesso guardo, butto il piatto, mi sono le ciliegie, ho mangiato, chiudo qua, mi prendo una pastiglietta, mi butto lì, mi guardo un filmetto e poi chissà che mi venga il sonno. Ciao a tutti, chiudo le trasmissioni. A questo c'è il tuo intorno, guarda, c'è problema. Dimmi che tutte le cose che lui si addirizza, non ti preoccupare. Prima c'era colpo grosso, non c'è nemmeno più quello. Una volta c'era. Comunque è vero, guarda, se... se tutte le cose che lui si addirizza, quindi si solleva da solo. E buonanotte io. Cazzo. Germano. Ma è vero di quello. Ehi, vedi di non distrarmi a Domenico, per cortesia. Domenico, tu non ascoltare. No, se non mi fa male con Antonio, è un pedofilo. Tu sono io con invece Domenico, il barruato, che le faccio che le due a fare mania con il santo il sabato. Ma non l'hai detto, che ascolto ogni tanto, fai bene a fare il gonfietto. Appunto. Proviamo a seguirla Domenico in 10 metri. 10 metri? Tanto se tu non siamo andati 10 metri. Ma fammi alzare. Dico vale 45? Sì, sono d'accordo anch'io. In 45 non mi tocca nessuno. Oppure in Volpe, quello che è. In U, in 43, ma non in 10 metri o 16, batto tu. E mandare a radiamatoriali. Manda così, insomma. Allora, 45 sono 6 MHz. 6,85 e ci siamo lì. Dopodiché possiamo parlare in frequenza marina, aspetta come era la frequenza adesso, fammi ricordare, 57775, no? 157425, che sarebbe in particolare molto marino. Dopodiché c'è l'altra che è 1615 Alguno di me? Io commuta, 29775. Beh, intanto ormai c'è un tumore, quindi cosa che mi frega, quando mi avvettano mi ci mettono in tavella. Andiamo, io...